è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Sei ancora a casa? Ancora lui ha colpito, Antonio Cassano. Problemi loro, sono froci, problemi loro. Ma la sbrigo così, se no mi attaccano da tutte le parti. Pensate un po', all'aeroporto di Bari doveva imbarcarsi insieme alla moglie, al figlio piccolo e una parte della famiglia. Gli è stato riservato al signor Cassano, e sapete quanto l'ho difeso su questa storia degli omosessuali e sulla multa che gli è stata comminata dall'UEFA. Ebbene, è stato riservato al signor Cassano e famiglia un autobus, naturalmente dell'aeroporto di Bari, ma trasformato in autobus privato. E poi, mentre gli altri ospiti, chiamiamoli così, gli altri passeggeri dell'aereo che doveva portare Cassano da Bari a Milano stavano aspettando dentro, c'erano gli addetti all'aeroporto che si facevano le foto prima di scendere. Sono passati alcuni minuti, così in allegria. Pensate un po', il responsabile dell'aeroporto parla di inestetismo. Ma dovreste cacciarli a pedate nel sedere, questi 10-15 che hanno permesso questa vergogna. Le immagini sono raccapriccianti. Solo in Italia possono accadere cose del genere, che un calciatore abbia un trattamento di favore, che venga riservato a un calciatore un autobus intero dell'aeroporto, e poi con i passeggeri tutti a bordo scattano le foto in tranquillità, fanno passare 3-4 minuti, ancora Cassano. Se parla in parole povere, in mezzo senso, che come si chiama chi? Parenzo? Ehi! Ma non ti distrarre, come si chiama chi? Non sono distratto per niente, ti sento benissimo. Ho sentito per la prima volta la tua indignazione, per la prima volta. No, ma no. Hai chiesto come si chiama chi? Come si chiama quello dell'aeroporto? E allora stai sveglio un attimo. Ho chiesto come si chiama quello dell'aeroporto, volevo telefonargli un attimo. Il signor Di Paola, chiamalo. Domenico Di Paola. E chiamiamolo un attimo. Amministratore unico di Aeroporti di Puglia, il quale dice: i viaggiatori non hanno accusato alcun ritardo, e il personale che si è reso responsabile di questo inestetismo, lo ha chiamato inestetismo. Non sono nostri dipendenti, sono dipendenti di una società che gestisce il trasporto interno all'aeroporto di Bari. Poi lo stesso Di Paola mi sembra abbia detto: verranno sicuramente sanzionati, eccetera eccetera. Voglio vedere, naturalmente. Chiamiamolo, signor Di Paola. Ma guardate le immagini che sono state realizzate, e facciamo un appello a chi era a bordo dell'aereo e chi ha realizzato queste immagini che circolano su YouTube, circolano su internet, a chiamarci qui alla Zanzara 800 24 00 24 per raccontarci di questo ennesimo scandalo che solo in Italia può accadere. Naturalmente è un piccolo scandalo, però è la fotografia di qualcosa, no? È il... Se penso quello che dico, sai che cosa viene fuori? Salvatore Borsellino apre un nuovo fronte. Il consigliere giuridico del Presidente della Repubblica, Loris D'Ambrosio, è morto davvero per infarto oppure dietro c'è una trama? Sentite. Conosco persone che hanno subito polemiche e attacchi ben più gravi di quelle che ha subito D'Ambrosio e che non sono morte di infarto. Il paragone con Papa Luciani. In un paese in cui anche un Papa come Papa Luciani non sono chiare le cause della sua morte, questi tarli possono rodere il cervello, anche se sicuramente si cacciano via. È un paese, dice Borsellino, ad elevata cardiopatia. È un tarlo che mi rode da qualche parte a pensare quanti morti per infarto ci sono. Parigi morto per infarto, e spesso tanti testimoni delle stragi di Ustica morti per infarto. Cioè è un paese strano il nostro, ad elevata livello di cardiopatie che portano all'infarto. E dopo aver detto che in Guatemala Antonio Ingroia rischia la morte perché potrebbe essere ucciso da un narcotrafficante per conto di mandanti italiani, dice: anch'io sono cardiopatico, vengo attaccato ogni giorno, però fino adesso non sono crepato. Io sono cardiopatico anch'io. Mi si accusa di essere una persona che fa di professione il fratello di Paolo, mi hanno detto di essere uno sciacallo che si nutre della carne di suo fratello, delle cose terribili. Sono cardiopatico, ma l'infarto ancora non mi è venuto. Non è che l'infarto debba necessariamente venire a seguito di critiche. Un nuovo fronte aperto da Salvatore Borsellino. Il tarlo, il famoso tarlo che gli rode. Il tarlo che rode a Salvatore Borsellino. Abbiamo già un ospite pronto. Borsellino ha fatto scoppiare un nuovo casino. Abbiamo già un ospite pronto, però prima voglio farvi... Quanti danni facciamo oggi? No, aspetta, i danni, non è che si fanno sempre danni. Aspetta un secondo, quasi sempre, diciamo, no? Ti faccio ascoltare l'esternazione... Goffredo Fofi, sarebbe bellissimo, però. L'esternazione... Ma perché non vuoi mai Goffredo Fofi, ad esempio? L'esternazione definitiva, l'esternazione definitiva di Bersani sugli omosessuali. Vogliamo diritti per le coppie gay. Sentite, però... E il nostro impegno serio, voglio chiarirlo, su tutto l'arco dei diritti, civili e sociali, il fatto di avere ribadito, viene ribadito il documento, il passo avanti che abbiamo compiuto sulle unioni gay, ovviamente non ci fa dimenticare il diritto di un lavoratore in fabbrica ad essere rappresentato anche se il suo sindacato non firma il contratto. Beh, nessuno lo metteva in dubbio, non è che c'è una contraddizione tra proporre il riconoscimento per le coppie gay e i diritti sindacali o quant'altro. Va bene, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Si è dimesso da poco il presidente della regione Sicilia Lombardo. Ah, infatti questa è una grande giornata. Come annunciato, tu sei un cretino, perché non capisco perché le dimissioni di Lombardo devono essere salutate da te come una grande giornata. Sì, champagne, offro tutti qui in Toscana. Vabbè, sei contento. Abbiamo registrato che Parenzo è contento delle dimissioni del presidente Lombardo in Sicilia. Che te ne fregherà mai della sorte del presidente Lombardo? Poi non lo capisco. Sì, è chiusa una stagione, benissimo. È con noi il rappresentante di Futuro e Libertà, che dai sondaggi vale meno del partito di Storace, così si legge oggi su molti giornali. Enzo Raisi, buonasera. Buonasera a voi. Ma è vera questa cosa, Raisi, che ormai siete sotto Storace? Io i sondaggi non li guardo mai, quindi mi interessa poco i sondaggi, mi interessa quello che dice il mio partito, che forse è lì che bisogna lavorare. Appunto, in che cosa bisogna lavorare? Perché Futuro e Libertà mi sembra un po' scomparso, caro Raisi. Lei che è una persona... Paga purtroppo un dazio pesante, quello di avere il suo leader che fa il presidente della Camera, e quindi non riesce ad essere libero come dovrebbe essere un presidente di un partito. E perché non dice a fine di dimettersi? Perché secondo me in questo momento è più importante nel ruolo in cui si trova. No, Raisi, ma che ci fa ancora presidente della Camera? Vuole restare presidente della Camera? Si sa benissimo. Ma guardi, non penso che lui abbia dei grossi vantaggi di essere presidente della Camera. Penso che in questo momento il paese abbia bisogno di persone nei posti giusti. Visto che è un paese, come lei ha detto nelle notizie precedenti, in cui purtroppo le istituzioni traballano per tanti motivi. Ha citato due casi, il caso del consulente del Presidente della Repubblica morto per infarto, qualcuno mette in dubbio, ha citato il caso del Presidente della Regione Sicilia, anch'io brinderò questa sera perché si è dimesso. Quindi però scusi, che forse qualcuno con la testa in certe posizioni ci stia e ci rimanga. D'accordo, ma quello è la sua idea su fine, naturalmente, che fa bene a fare a restare presidente della Camera. Però molti nel suo partito dicono: beh, lui è un po' ingessato, non si può esprimere come vuole. E soprattutto, secondo lei, ha ancora consenso Fini? O non è né carne né pesce? Secondo me ha ancora consenso nel momento in cui rimane uno dei pochi politici credibili in questo paese, anche per le scelte coraggiose che ci ha fatto fare, che abbiamo fatto con lui condividendole. Mi sembra che questo paese abbia un po' la memoria corta. È la prima volta nella storia di questa Repubblica che 50 parlamentari passano dalla comoda maggioranza e anche da posti di governo, lasciando le poltrone e andando all'opposizione e rischiando quello che abbiamo rischiato. Scusate, Parenzo ancora non ha imparato, dopo anni che non può parlare sopra un ospite collegato per telefono, non c'è niente da fare, va bene. In TV si può però. In TV si può, e qui alla radio non si può. Raisi, allora... No, dicevo che credo che il paese, spero che prima o poi si ricordi anche il gesto che abbiamo fatto, che è un gesto unico in questo paese. Solitamente siamo persone che vanno all'opposizione ai posti governativi. Il paese dimentica tutto, queste cose. Io ho ancora fiducia negli italiani, cosa vuole che dica? Sarò anche un coglione. Ma poi voi volete... Ah, lei si sente un coglione perché l'Italia non riconosce il valore del vostro gesto? No, ho detto sono un coglione, ma credo che ancora gli italiani, persone serie, si ricordino. Però scusi, Raisi, il punto fondamentale è un altro, è che... voi, tra l'altro, proponete per il 2013 la grande coalizione, tutti insieme un'altra volta. A parte il fatto che il dibattito è aperto, io personalmente credo che in questo momento il paese, che è un paese che è sull'orlo di un burrone, abbia bisogno di maggioranze solide che facciano queste riforme, che il vero problema di questa Italia, che tutti amiamo, è che per 20 anni destra e sinistra non hanno fatto una riforma che sia una. Nell'epoca Berlusconi-Prodi... Prendiamo dal 94 quando è sceso in campo Berlusconi e di conseguenza Prodi, lei mi dice cos'è cambiato per il cittadino. Ma questo italiano, posso anche essere d'accordo, ma è vero che lei vero che lei si è messo in contatto recentemente con Giannino? Con chi? Con Giannino? Oscar. Io sicuramente sono uno di quelli che appoggia e che applaude e manifesta Giannino, questo senza dubbio. Ma ha cercato di mettersi in contatto con lui, cioè vorrebbe no, insomma, no? Sottoscrivo quello che lui dice in quel manifesto, né più né meno, come ha fatto alcuni colleghi del mio partito, tipo Baldassare della Vera, nulla di più. 800 24 00 24, lei ci sta bene dentro Futuro e Libertà? Sì, molto non è, bene. Non è che vuole uscire, no? No, assolutamente. Assolutamente. Senta, lei ha dichiarato che il presidente dell'associazione vittime della strage di Bologna, Bolognesi, è un abusivo, perché? Dunque, perché molto semplice, lui è diventato socio, l'articolo 7 dello statuto prevede che il padre di un ferito minorenne possa accedere all'iscrizione dell'associazione. Quando ovviamente il minorenne è diventato maggiorenne non aveva titolo, allora cosa ha fatto? Ha tirato fuori la storia della suocera, peraltro l'ha sempre tenuto un po' nascosta la storia della suocera, tant'è che ieri io ho fatto una gaffa, nel senso che ho detto che la suocera, di cui nessuno sa esattamente se era morta nel suo colpo, era morta queste settimane dopo o 2 o 3 anni dopo. No, abbiamo capito, comunque, anch'io non lo sapevo, abbiamo capito che in realtà è morta è morta il giorno della strage. Lei ancora morta, fino a ieri... Non è immediato, perché in realtà rimase ferita e morì. Allora chieda scusa per questo. Io sì, ho già chiesto scusa anche ieri, però vede, il problema vero qual è? Che si è fatta la polemica su questa cosa che l'ha spiegata in un altro contesto. Cioè, io ho detto della suocera, di cui non si sa nulla, perché la suocera non ha mai parlato con nome e cognome, e ieri finalmente mi ha saputo che la suocera... In realtà non gli dà titolo, perché se lei legge sempre l'articolo 7... Di che? Articolo 7 di che? Lo statuto dell'associazione familiare delle vittime. Ma chi se ne frega, Raisi? No, cioè... come se ne frega? Quella è un'associazione che riceve fondi pubblici, eh? Cioè, lei pensa che i fondi pubblici vanno dati a un'associazione che rispetta neanche le sue regole? Cioè, lei crede questo? No, è una soldata. Quanti soldi prende l'associazione per le familiari? Credo che nessuno sa, perché tutte le volte che mi hanno chiesto il bilancio, io sono stato assessore del comune di Bologna, cioè quelli che dava cosa, non mi ha mai fatto vedere il bilancio. Quindi questa è grave, cosa molto simpatica. Lei cosa dice? Cioè, non si sa quanti soldi prende dallo Stato? Soprattutto non si sa come li spende. Ma soprattutto, no, io sollevo un problema. Perché l'associazione familiari della strage di Bologna deve prendere soldi dallo Stato? Questo è un problema serio, eh? Io non capisco. No, secondo me è giusto. Perché è giusto? Perché purtroppo rappresenta delle vittime. Ma quello che c'entra? Quello, ci sono i risarcimenti eventuali alle famiglie? No, ci sono le manifestazioni che fanno il ricordo della strage, secondo me è giustissimo. Io su questo non contesto. Io contesto il fatto che non abbia un bilancio trasparente. Questa è una cosa diversa. Ma cosa dice un bilancio poco trasparente? Questo non capisco. Come? Ma perché dice un bilancio poco trasparente? Perché non lo fa vedere. Perché tu, come tu sai molto bene, i bilanci della sezione non riconosciute, come quelli dei partiti purtroppo, che questo è l'altro grosso problema. Ma come vuoi che li spendano, scusa? Anche i bilanci, io non lo so, se lei non ne fa vedere, io non so se lui percepisce qualcosa. Ma li spenderanno bene, scusa, sono persone per bene. Ma ti faccio presente, ma questo lo dici tu, scusami, io di bolognese ha un pessimo giudizio di bolognese. Ecco, ma perché perché un pessimo giudizio di bolognese? Per esempio, l'ultima cosa che ha detto, ti faccio un esempio, lui adesso ha scritto un libro, sulla strage, io me lo sono comprato e me lo leggerò. Quando ieri ho annunciato che a settembre io presenterò il mio libro sulla strage, perché poi ti racconto anche perché scrivo questo libro, lui ha risposto che lo userà per un tavolo che lui ha zoppicante in casa sua. Questa è la differenza. Io non lo sono comprato, non leggo il suo libro. lui invece lo usa per metterlo sul tavolino. Questo per dirti com'è il personaggio è uno che dice che la nuova indagine che sono in corso, che sta per aperte le cose, ecco, sono delle buffonate, danno delle buffoni ai magistrati che sta indagando e alla commissione d'inchiesta parlamentare che ha portato i documenti nuovi attraverso i quali... Scusi un attimo, però Raisi, a lei questa, io non capisco questa polemica sulla suocera. Anche lei è caduto nella trappola, la stessa in cui è caduto Fioravanti? Io non lo sapevo prima, scusi, però non comportiamo il mio Fioravanti. Fioravanti ha detto una cosa, fra l'altro in un'intervista che non era un'intervista. No, l'ha ribaduta anche a noi. Poi ha confermato. Ha presentato un falso, e lui nel falso, lui disse... appunto questa cosa forza, ma lo dice anche in modo sbagliato, cioè lui non sapeva dell'articolo 7, fra parentesi, mentre io invece l'articolo 7 me lo sono mai studiato. Io dico solamente questo, io ho scritto un libro. Beh, lei ha detto peggio, lei ha detto che è un abusivo perché non potrebbe essere presidente dell'associazione delle vittime della strage. Non potrebbe essere iscritto, lui potrebbe essere iscritto all'associazione. Lui, scusi, ha avuto, ma a chi se ne frega dei cavilli? Lui ha avuto il figlio sfigurato. È morta la suocera. E sua moglie può essere iscritta, lui no. Cioè, ragazzi, ma non è che lui svolge il ruolo di presidente, può essere scritto sua moglie e può essere scritto il figlio. Invece è scritto lui che non ha titolo. Ma lui fa politica attraverso questa associazione? Lui ha provato, il problema è che il PD non l'ha mai candidato, questa è la verità. Quando la Bonfietti ha finito il suo giro, era rappresentante dei familiari di Ustica, lui si aspettava di essere candidato e non lo candidarono, giustamente, perché poi non è una persona fidata. Cioè, lei sta dicendo che l'associazione per strage è un'emanazione della sinistra italiana, questa è la cosa, almeno i vertici. Beh, forse lei rifugge un piccolo particolare. Durante i processi della strage di Bologna, le parti civili, quindi anche l'associazione familiare delle vittime, i magistrati del PM si incontrarono nella sede del Partito Comunista ed ebbero un confronto, cosa che uscì sui giornali, non successe nulla. In un qualsiasi paese civile una cosa del genere avrebbe portato a spostamento. Cioè, scusi, quando è che si incontravano nella sede del Partito Comunista? Durante il processo della strage di Bologna. Quale processo? Perché qui ce ne sono stati diversi. Quello che portò alla condanna dei due, il primo processo. Il primo processo che portò alla condanna di Fioravanti e Mamma? È fatto noto, lo sanno tutti. Ci fu anche un giudizio al CSM. Cioè, lei dice fu il Partito Comunista in sostanza a far condannare Fioravanti e la Mambro? No, sicuramente. Il Partito Comunista non c'era più poi, tra l'altro. No, il Partito Comunista c'era. Quando fu emessa la prima sentenza c'era ancora il Partito Comunista. Il processo sicuramente è frutto di una serie di interessi che vanno dalla magistratura militante. Lei considera che tutti i PM della strage di Bologna hanno fatto, soprattutto i più importanti, Mancuso ha fatto carriera politica. Magistratura militante, Partito Comunista? E ovviamente i vertici del SISMI che volevano la copertura del Lodo Moro. S'approcio e me, perché c'è da ridì, non vedo che problema c'è, mettiamola così. S'approcio e me, e che ce passo fa, sono libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Sono froci, problemi loro, ma la sbrigo così, sennò mi attaccano da tutte le parti. Vendola, Vendola, l'origine della parola finocchio, ieri sera da Mentana. La parola dispregiativa finocchio nasca dall'abitudine di adoperare semi di finocchio tra le fascine su cui venivano collocati i sodomiti per essere arsi vivi, in modo tale che la carne suppliziata di quei poveracci non puzzasse troppo. Dunque è un'origine negativa della parola finocchio, da quello che si capisce. È vero, sapevo anch'io questo. Allora, facevano gli elettroshock ai gay quando avevo 20 anni, sentite. Infatti è terribile. La soggettività di un gay non può essere né, come accadeva quando io avevo 20 anni, confinata nei laboratori dello psichiatra dove tanti miei amici subivano gli elettroshock o violenze di ogni tipo. E poi, sempre Vendola dice, siamo più una repubblica islamica sui diritti, addirittura una repubblica islamica, caro Vendola. Noi che abbiamo talvolta su queste questioni standard di diritti civili che fanno più propendere all'immagine di una repubblica islamica che non di una moderna democrazia laica e occidentale. Siamo qui 800 24 00 24, la Zanzara, ieri epico scontro che vi faremo ascoltare tra Sapelli, il professor Giulio Sapelli, e Enzo Bianco, ma siamo con Enzo Raisi di Futuro e Libertà. Dentro Futuro e Libertà, caro Raisi. No, voglio chiedere ancora una cosa su Bologna prima. No, io non ho capito bene su Bologna. Dunque, Mambro e Fioravanti sono innocenti sicuramente, secondo lei, no? Guardi, sto scrivendo un libro sopra, quindi dal libro ci scrivo anche il capitolo, si dirà è dedicato al processo, quindi come si svolge il processo, capirete se è processo serio o meno. Vabbè, adesso al di là del libro che usci... sentenze, per carità, però la verità è che anche dalle voci della commissione di Mitrocchi risulta che quel giorno a Bologna c'erano altre persone che ne sono indagato. Sono innocenti? Secondo me dai documenti che emano io e sì, dai documenti che emano la commissione di Mitrocchi, sicuramente la scena del film era un'altra rispetto a quella del processo. E chi li ha incastrati? Beh, anche stati due corruttori, uno si chiama Izzo, che è lo stupatore del Ciceo, e l'altro si chiama Sparti. Che sì, no, ma al di là di questo, di pancreas al tumore, sì, pancreas. No, ma la storia dal 90 fino al 2002. Sì, no. Però non facendo mai un giovane di galera, nonostante fosse stato condannato per più. Sì, per no, più ma reali. Al di là di come sono stati incastrati in tribunale, voglio dire, ci fu un complotto ordito da qualcuno, lei ha detto prima. Proprio in virtù della sua deposizione al processo di Bologna dal PM Mancuso, grazie a quel riconoscimento di collaboratore di giustizia uscì nel 2005 e ha ammazzato altre due persone. Sì, ma questo l'ho capito, ma io voglio dire, lei ha detto prima, ci fu in combutta magistratura militante, il Partito Comunista dell'epoca e i servizi segreti, sì, in particolare, che doveva coprire Lodo Moro, che voi sapete cos'è Lodo Moro. Lodo Moro è la garanzia che Moro diede ai palestinesi, in particolare al FPLP, di trasportare esplosivi e armi nel nostro paese senza che questi però facessero attentati ad esclusione della comunità ebraica e degli americani, tant'è che gli israeliani ebbero purtroppo l'attentato al Fiumicino, alla loro compagnia aerea. E questo era l'accordo, è un accordo che è durato anche dopo la morte di Moro, e il paradosso qual è? Che Moro è morto con le armi, le Brigate Rosse, che erano poi quelle che gli davano l'FPLP, quindi questo è anche un altro paradosso di questo paese. Dunque la sua teoria è che a mettere quelle bombe a Bologna chi furono? No, la teoria, allora guardi, io parlo solamente di documenti, io teoria non ne ho. Vabbè, io teoria basata sui documenti, sì. Quel giorno c'era un trasporto di bombe, come dice giustamente Cossiga, non esplosivi, bombe, Cossiga lo esplista questo, che appartenevano all'FPLP e quindi al gruppo Separat. Quel giorno a Bologna c'era la Frolic e c'era Cram, che erano due componenti del gruppo Separat. Cram è testimoniato dai fatti e l'ha messo lo stesso Carlos, la Frolic l'ha riconosciuto, un testimone chiave, che all'epoca non fu neanche praticamente ascoltato, oppure fu preso poco in considerazione, nonostante la Frolic era stata arrestata all'82 a Fiumicino, non fecero neanche una conferenza americana. Dopodiché su questa vicenda nessuno indagò, mentre si costruì, come dire, le prove attraverso due testimoni che, ripeto, sono Izzo e Sparti, che sapete chi sono. Sì, ok. Già capito. Dunque, mi sembra di capire che attraverso questi documenti che lei ha viene fuori un terrorismo. Non è che sono i documenti che ho, attenzione, sono i documenti della commissione Mitrocchi, che è una commissione. Sì, d'accordo, ho capito. E quindi voi sapete cos'è una commissione inchiesta parlamentare? Sì, no, ho capito, Raisi, però per andare al sodo, perché qui non possiamo spiegare a lungo, la cosa è questa: secondo lei ci fu una, come dire, un'unità di intenti tra elementi del terrorismo internazionale e... magistratura? No, nella realizzazione dell'attentato. La volontà di arrivare alla conclusione di quel processo in quei termini, sicuramente la magistratura di Bologna, il Partito Comunista e dal Sismi, che depistò. Fra l'altro il paradosso è che il Sismi è stato condannato per depistaggio e il depistaggio portava... No, ma io ho capito, come l'attentato proprio Valle e Fioravanti, che hanno due denari. Sì, quindi... d'accordo. Allora io voglio capire, però io stavo parlando degli attentatori materiali, cioè chi mise quelle bombe. No, effettivamente parlando, perché ancora non ci sono dei documenti. No, ho capito. Secondo lei, attraverso questo, se è stato un attentato o se è stato un'esplosione casuale di una bomba, come dice Cossiga. Carlos dà un'altra versione dei fatti. Carlos ammette che c'erano i suoi uomini, ammette che era il trasporto il suo esplosivo, però dice che sono stati gli israeliani e americani, cosa cui non credo, ad esempio. Però credo molto. Ma i terroristi di sinistra italiani quanto c'entrano in questo? Purtroppo i terroristi italiani, quanto terroristi, c'entrano poco. C'entra l'autonomia operaia di Roma, che è quella che in qualche modo aiutava l'FPLP al trasporto di esplosivi delle loro armi, come dimostra l'arresto di Abu Saleh insieme a Pifano per i famosi missili di Ortona un anno prima, nel 79. Ho capito. Scatta la famosa rottura del Lodo Moro, dove c'è la minaccia dell'FPLP se non viene rilasciato Abu Saleh, che era il loro capo e che viene arrestato in quell'occasione. E giustamente che il FPLP dice: voi avete rotto il patto, ci dovete restituire le armi e ci dovete restituire la Bussalè. Allora 80024, dimmi, però non possiamo restare stando a quello che lui dice. Non voglio tornare sulla ricostruzione, no, sul ecco, presidente appunto dell'associazione, solo il presidente dell'associazione, sì. Stando così, se lei fosse in fili non gli stringerebbe mai la mano il giorno della memoria? Guardi, io stringo la mano a tutti, ha compreso lui. Però il vero problema è che io più volte ho chiesto a lui di avere un dibattito pubblico e lui è scappato. Ma lui campa un po' sulle disgrazie, Bolognesi, campa un po' sulle disgrazie sue e altrui, cioè ha fatto di questa cosa una professione? Beh, guardi, mi sembra un'affermazione forte. Io dico che sicuramente lui è uno che vive di quello, questo è sotto gli occhi di tutti. Vive di quello? Se voi gli togliete quello, Bolognesi non lo considera più nessuno. È un professionista dell'associazionismo. Beh, dato il fatto che lì da quasi 20 anni nessuno sa niente, è un lavoro, cazzo, eccetera, faccia lei i suoi calcoli. Io dico questo, io prendo atto, io non dico che sia un professionista, io ho detto quello che ho detto, cioè che lui da 20 anni lì non ha titolo e da 20 anni che fa il bello cattivo tempo. E doveva essere candidato per il suo partito. Doveva essere candidato nel suo partito, ripeto, molto intelligentemente. Non lo vuole candidare? Non lo vuole candidare, infatti chiedete al suo partito perché non l'ha candidato. Ma l'azione è quello che deve fare, cioè difende la memoria delle vittime. Scusi. Lui non difende la memoria delle vittime, perché vedi, la differenza fra lui, ad esempio, e Milani... quello che deve fare, lei. La differenza fra lui e Milani, che è il presidente delle vittime Piazza della Loggia. Mentre Milani dialoga con tutti e cerca la verità, invece? Ha incontrato anche recentemente... Cioè lui si è fissato su questa roba qua. Lui c'ha la sua verità e chiunque propone di indagini alternative dice che depista, compreso i magistrati che sta indagando e compreso la commissione Mitrocchi. Ho capito. Questo mi sembra fatto molto grave. Senta, ultima cosa, Raisi, ma anche questa cosa di Fioravanti dell'intervista è stata manovrata da Bolognesi, secondo lei? Beh, secondo lei Bolognesi non sapeva che era un'intervista falsa? Cioè, non so, mi domando. Cioè, i giornalisti ridevano quando gli hanno presentato, tutti i giornalisti presenti ridevano perché avevano capito che era un falso. Può essere che il presidente... Cioè, un falso che significa? Le parole le abbiamo sentite anche noi, anche se si sentivano male. Non era un'intervista. Perché lui stava spiegando perché non voleva che c'è l'intervista, ma d'altra parte ci sono gli email, c'è la denuncia del suo avvocato, quindi poi decide il magistrato. Ma interessa poco. Cioè, lei dice che Bolognesi ha fatto una trappola a... No, la trappola l'hanno fatti i ragazzini che hanno fatto l'intervista. Bolognesi li ha strumentalizzati. Poi ripeto, non sta a me giudicare il magistrato. Io di Fioravanti non è che entra a me, Fioravanti fa la sua gara, io sto facendo un altro lavoro, io non c'entro niente con Fioravanti, io sto facendo un lavoro per la ricerca della verità. Punto. Ho capito. Se poi questa ricerca della verità porterà anche alla revisione del processo di Fioravanti, questi sono problemi di Fioravanti, non sono problemi miei. Lei lavorerebbe la revisione del processo? Sarebbe cosa buona e giusta? Io vorrei che saltasse fuori la verità. No, quello d'accordo, quello tutti. Ma lei... questo episodio così lei capisce perché io faccio questa battaglia. Io 2 agosto 1980 stavo andando alla stazione ed ero in Via Indipendenza quando scoppiò la bomba. Via Indipendenza, come lei sa, è la strada che porta un'altra stazione. Sì. Per cui io dovevo partire, i militari nei carabinieri, e stavo andando a vedere gli orari dei treni. Io ho scagliato l'appuntamento con la morte per 10 minuti. Quindi io ho visto cos'è quella strage. Mi è rimasta dentro il cuore. Mia madre ha pianto perché io fino a 1:30 non sono arrivato a casa, quindi mia madre sapeva che io andavo alla stazione e che non mi ha visto, non poveretta, è stata insomma, secondo lei è giusto rifare il processo? È giusto che il processo si rifaccia? È giusto che si indaghi finalmente. No, ma quello d'accordo, però è giusto che è giusto dunque che se emergono effettivamente dei fatti nuovi, credo che sia giusto anche rifare il processo, su questo non c'è ombra di dubbio. Allora, 18:42, ascoltatori, 800 24 00 24, resti lì, Raisi, le devo fare un'ultima domanda. Franco dalla provincia di Bari. Che battaglia. Buonasera. Vada. Stavo pensando che lei stigmatizza e si meraviglia del fatto che in Italia possono accadere vicende come quelle di Castrano. Ma se in Italia, ascolti un po', ma se in Italia si permette a uno come lei di andare con un microfono aperto a dire quello che dice... Succede anche questo, anche, Franco. Succede anche questo in Italia, sì. No, le devo dire una cosa. Se lei riesce a dare... Ma perché non ci prova lei? Perché non ci prova lei? Scusi, che è tanto bravo. Perché non ci prova lei? Perché non ci prova lei a fare la radio? Perché non ci prova lei a fare la radio? Direi a tutti quelli che ascoltano questo programma e non condividono le cose che lei dice, di cominciare la telefonata ogni volta che chiamano dicendo: lei è il nuovo Emilio Fede. Sì. Tempo fa un ascoltatore dice: ma non ho nessun problema, Franco. Non ho nessun problema. So come una biglia. Invece lei è stata che nuovo Emilio Fede, perché effettivamente ha quell'atteggiamento servile che era del giornalista Emilio Fede quando parlava del suo capo. Ma non ho nessun... Basta risentire la puntata di Squinzi, lei era un agnellino. Di Squinzi? La chiamò un ascoltatore. Ma qui Squinzi non è mai venuto? Squinzi. Quale? Quando fece la nota battuta sulla macelleria sociale, bla bla bla bla. Io ho detto che aveva sbagliato a farla, figuriamoci un po'. No. Ho detto che aveva sbagliato a farla. Lei ha detto ha sbagliato. Certo. In modo proprio tranquillo. Ha sbagliato, certo. Buono. Secondo me ha sbagliato. Lei dà del coglione alle persone. Ma perché devo dare del coglione? Perché devo dare del coglione a Squinzi? Lei dà normalmente del coglione. Ma lei, alle persone, questo lo dice lei. Questo lo dice lei. Gridando sulla mia voce, basta sentirlo, si fa una risata quando l'altro giorno un ascoltatore l'ha chiamata dicendo e dandogli gli attributi dei testicoli, si è fatto una risata. Ma quando io le dico e le diranno gli altri ascoltatori, lei è come Emilio Fede, ma lei si incazzerà. Ma no, ma non mi incazzo, infatti. Si vada a risentire, guardi, si vada a risentire. Ma stia tranquillo, stia calmo. Fatta da un ascoltatore, stia calmo, che le disse, stia calmo. Lei è il nuovo Emilio Fede e lei gli chiude può il darsi telefono in bacio dicendo: guardi, ebbene, vediamo se guardi, lo faranno gli altri ascoltatori. A me queste telefonate servono, secondo figuriamoci un po'. Se la prende come una biglia, ma come non me sta la facendo ora. Ma veramente non me la sono presa, è lei che come no, guardi, ma quando mai? A me non me ne frega niente. c'ha un rialzo di pressione. Ma lei, io, comunque, buona lei, fortuna, può, lei può dire quello che vuole, Franco. Lei può dire quello io che vuole. Io dico quello che voglio e dico che se lui permette, sì, se noi ce la prendiamo, bravo, per cazzare, bravo, lei si scandalizza. Bravo. Mentre lei fa venire senza contraddittorio, sì, per Castolano, sì, come si ora avanti, allora, sì, lei effettivamente appartiene, sì, a quella vecchia televisione. Ma veramente questa qua è la radio. Quella vecchia radio. Vabbè, vedo che quando, sì, vuole lei, vede, stigmatizza anche l'imperfezione. Mi scusi, ho sbagliato. Quel modo di fare informazione, sì, vecchia, gossip, cose di questo genere. Vecchia, gossip. Insomma. Vabbè, Franco, ma sì, insomma, sì, sì, siamo, sì, abituati ai deliri noi. Agli amici che non sono d'accordo con lei. Siamo abituati. A lei e l'uovo Emilio Fede. Siamo abituati, siamo abituati ai deliri, non si preoccupi. Ma non è un'offesa. No, ma a parte che non è un'offesa. Comunque, no, siamo abituati ai deliri. Mica io ho detto che è un'offesa. Ma lei, siamo abituati. Detto, ha messo ma giù, no, ma non, ha messo guardi, giù, non mi ricordo. Come lei rimanda in onda normalmente le telefonate? Rimandi in onda quella, vabbè, telefonata. Ma sì, tranquilla, se la ritrovo, le disse, non lei c'è problema. Fede e lì disse, vabbè, sta dicendo. Ci vuole una punturina qua, eh? Punturina subito. Scusa se ho utilizzato questi termini un po' volgari. Punturina subito, direi. Parlando con lei, sì, vengono spontanee. Punturina subito. Arrivederci. Punturina, arrivederci, subito. È fortunato perché non abbiamo macchine in zona. Non, per ci, ora, non però ci sono macchine in provincia di Bari. Ci perdoni, caro Franco, ci perdoni. Ci però sono problemi nella sanità. Quindi. Beh, ci sono problemi molto gravi in Puglia, della sanità, dunque non ci sono macchine disponibili. Quando tutto sembra poesia. Sei ancora a casa? Le zanzare di casa mia. La migliore che ho letto oggi su Twitter. Bersani, due punti, le ali a monti ma pronti a tutto. Che è come dire ti amo ma vado anche a puttane. Ti piace? Parenzo. Non è male, eh? Non è male. Le ali a monti ma pronti a tutto. Ti amo ma vado anche a puttane. Mi sembra microsatira. Ma che, ma quale volgare? Quale volgare? Quale volgare? Serafino, provincia di Ravenna, quale volgare? Buonasera. Vada. Io ho uno zio che si chiama Serafino. Dica signor, ecco, Serafino. Allora volevo dire, signor Luciani, che anche lei ogni tanto compie qualche inestetismo. Ma io ho tantissimi, tantissimi. È corretta la definizione che ha dato l'aveva fatto, perché si rifà al concetto, sì, di bello, il positivo è bello in quanto buono, in quanto opportuno, e al contrario l'inestetismo è brutto in quanto inopportuno. Mm. E allora volevo dire, guardi, io sono un ammiratore della sua trasmissione e del suo modo di condurre. E sulla questione della quale abbiamo dibattuto tanto in questi giorni, l'intervista Fioravanti, ecco, secondo me era un leggero inestetismo di Cruciani e Parenzo. Ma guardi, non c'è nessun inestetismo. Perché ve la prendete tanto per il fatto che abbiamo intervistato uno condannato all'ergastolo ma uomo libero fuori dal carcere? Cruciani. Perché ve la prendete tanto? Non capisco, perché? Cruciani, perché guardi, ve la prendete tanto? Qual è il problema? Dov'è il punto? Modo di condurre la trasmissione è lodevole, perché ma non possiamo trasformarci in un'altra cosa, Serafino. Quando, anche quando viene Fioravanti qui, non possiamo trasformarci in altro. No, siamo, ma sempre un po' burloni anche con, ma Fioravanti, me ne fotto di presentare Fioravanti in un altro modo. Sì, non è, però, non è la storia siamo noi, questa qua non, Serafino, è la storia siamo noi. Questo modo di condurre la trasmissione vi fa onore, e ho capito, ma non so se ci fa onore o no, ma è questo. Dunque invitiamo anche assassini matricolati a parlare a modo nostro. No, questo è il punto, che piaccia o non piaccia, finché ce lo fanno fare lo facciamo, altrimenti non lo facciamo più. E questo è un leggero inestetismo. Ma quale inestetismo? Ma quale inestetismo? Secondo lei va bene, ma per carità, io ne faccio tanti di inestetismi. Guardi che gli inestetismi non sono nell'intervista a Fioravanti, magari sono in tante altre cose. Che c'è, Parenzo? Che dici? No, dico a Serafino che non può chiedere a un maiale di essere una farfalla. Beh, adesso metafora, proprio un maiale non mi sento. Adesso abbia pazienza. Noi una straordinaria porcilaia. dove ci si rotola nel fango, sì, esatto, sicuramente non è un albero in fiori in cui le farfalle svolazzano alla ricerca del profumo. Bravo, questa mi è piaciuta, lo sai, quanto ci hai pensato? Bene. Eh? Quanto ci hai pensato per questa cosa? No, io meno penso, più dico cose intelligenti, quindi se penso dico stronzate. Signor Raisi, lei è d'accordo come Futura Libertà sul matrimonio omosessuale? Sul matrimonio omosessuale no, sui diritti delle coppie di fatto sì. Che è quello che dicono tutti. Non gay. Cioè, io sono d'accordissimo e credo che, vendo a sbaglio estremizzare il concetto, perché siamo l'ultimo paese in Europa che deve ancora riconoscere le coppie di fatto, etero o gay. No, no, ma non lasciamo tutto. Gli etero, i gay, perché questa è una grande mistificazione. Io sono d'accordo per il concetto dei diritti delle coppie gay, sì. E lo dica a qualcuno del suo partito, il signor Menia, per esempio. Guardi, io penso che il mio capo, che è presidente Fini, è d'accordo e io parto da lì. Dopodiché gli altri dissentono, i partiti sono plurali, non vedo perché io devo censurare qualcuno. Io però mi ricordo che il mio presidente su questo ha fatto una battaglia, rompendo anche certe tradizioni interne alla destra in modo molto coraggioso, e questo credo è uno dei motivi per cui mi fa trovare al suo fianco rispetto ad altri. Anche se devo dire la verità, anche se devo dire la verità, Fini su questa cosa è un po' tornato indietro, perché una volta parlava di unione tra coppie gay, poi ha parlato di, adesso parla di diritti, eccetera eccetera. Guardi, su questo Fini è molto chiaro e molto tranciante, tant'è che viene accusato una certa destra, come sul caso degli ebrei, no? Sul caso degli ebrei lui è stato molto chiaro, sì. Io condivino pienamente quello che lui ha detto. Raisi, ma io ho l'impressione bene, però, scusi, lei non la pensa così, io ho l'impressione che Fini come leader sia finito, gliela dico proprio chiaramente questa cosa, Fini come leader secondo me è finito. Bene, ognuno ha le sue opinioni, io le rispetto. No, ma sono dati oggettivi. Avere di leader finiti come dite voi così. Io dico che uno che ancora nella storia di questo ma paese che può fare ancora? Che può fare? Se non altro, guardi, voglio essere anche, come dire, riduttivo. Se non altro perché non vedo dei gran geni in giro, no? E quindi può darsi che comunque Fini, nel suo essere sempre fermo su certe posizioni, molto rispettoso anche al piano istituzionale, persone credibili, diciamo che quantomeno in questa, come dire, marasma di questo mondo generale, sicuramente la sua buona figura la farà sempre. Dopodiché, per carità, attendiamo il nuovo, in questo momento non lo vedo, perché se il nuovo è Grillo, mi consenta, rimango con Fini tutta la vita. Vabbè, non è che c'è solo Grillo. No, va bene, Raisi, grazie di essere stato con noi. Valerio da Perugia. Grazie per la vostra emissione, devo dire. Valerio da Perugia. Saluti. Buongiorno, mi sentite? Sì, dica. Allora, volevo dare il mio modesto sostegno a questa vostra impostazione di far partecipare alla trasmissione a persone come Fioravanti, e anzi, ben venga, perché anche se durante le interviste riescono a dire poche cose, ci danno dei pezzettini del puzzle. Allora, oggi l'onorevole Mario Adinolfi del Partito Democratico, che pure ha criticato la Zanzara per una parte dell'intervista in cui ha detto che siamo stati troppo accondiscendenti, eccetera eccetera. Radio Adinolfi ormai. Ma non è Radio Adinolfi, che c'entra? Ogni giorno c'è solo Adinolfi, che va benissimo, un amico. No, non c'entra niente. Non c'entra niente, però anche uno che ha criticato il modo in cui abbiamo fatto l'intervista, secondo me sbagliando, perché comunque la Zanzara resta sempre la Zanzara a prescindere da chi è ospite. Dice che quell'intervista è fondamentale, scrive così proprio su un giornale, su Europa, credo, è intervista fondamentale, che la denuncia all'ordine giornalista è ridicola, l'intervista è fondamentale perché Fioravanti dice alcune cose che non ha detto in quell'altra intervista, e che secondo lui cose che sono gravissime, e dunque resta comunque un passaggio fondamentale per capire davvero chi è Fioravanti, punto e basta. Allora, che stava dicendo Valerio però? Che ben venga che magari invitasse anche gente un po' più di peso, che però non viene fuori. Ma che peso? Io voglio tutti i criminali. Io. Katia da Roma, grazie Valerio, grazie. Katia da Roma. Buonasera. Buonasera, dica. Buonasera signor Cruciani. Dica. Mi sente? Io non la sento, aspetti che abbasso la radio. No, deve abbassare pure qualcos'altro, c'è gente intorno a lei che il volume... Sono in macchina, sto sudando e qualcos'altro. Come qualcos'altro? Cosa suda? Cosa suda? Nel senso, lei capisce, da più di un'ora avrei un bisognino. Beh, scusi, no, però questa qua è una cosa seria, fare? Signora Katia. No, scusi, prego? Però non ho capito bene. Da più di un'ora lei deve fare la pipì. Da più di un'ora che devo parlare con lei, quindi io sono una donna. Certo, bevo, per carità. Fa caldo. Però scusi un attimo. Ho 6 anni. Sì, ma deve fare la pipì? Anche io e i miei bisognini. Deve fare la pipì, signora Katia? Prego? Deve fare la pipì? No. Sì, i miei bisognini. Vabbè, ma chi se ne frega, però, scusi. Appunto, e adesso parliamo velocemente. È lei che l'ha detto, però, scusi. Un attimo, lo attimo. Lo so, ma... Sì, lo voluto dire. Che c'è? A un certo punto stavo riattaccando. Parenzo, che stai facendo? Mi piaceva. Che è? Cos'è questo non rumore? Scusate, perché è vero che sono giovane, ma però è un modo per fare la vescica. Prego. Ah, è un metodo per far, ma la signora non può fare la pipì in macchina. No, la signora sta tranquilla, ce la fa adesso. Perché adesso ce la faccio. Ce la fa a resistere, signora? Sì. Facciamo la prova, apriamo l'acqua. No, signor Parenzo, non mi stuzzichi. La signora Parenzo vuole provocare, ecco. La signora vuole stimolare la pipì della signora. No, non c'ho bisogno di stimoli. Io sono libera, indipendente. Non ho bisogno di stimoli, guarda, sono una persona molto sveglia. Vabbè, ma qualcuno... Ho sentito delle cose madornali, mi rendo conto che io faccio parte di una società che non mi appartiene. Signora, scusi, ma... Lei è molto simpatico, molto ironico... E credo che la gente dorma molto. Dorma molto, sì. No, ma adesso le dico molto questo. Ed è vero che non è né carne né pesce. Invece la nuova trasmissione in questo momento serve molto, in questo momento critico. Sì, riusciremo a far fare la pipì alla signora? No, cambiamo discorso. Ecco qua. Oh. Tortura cinese alla zanzara in diretta. No, guardi, parliamo di un'altra cosa perché poi veramente... No, ma è come Giochi senza frontiere. Prego? No, è come sono le Olimpiadi della pipì. Chi le dice? No, parliamo di un'altra cosa. Adesso ma signora, di cosa dobbiamo parlare dopo quello che ha detto? Scusi, lei ha esordito dicendo io sono sudata. Te lo devo dire perché mi dispiaceva riattaccare. Che le devo dire? Sono sincera, anzi. Ho capito, però io allora le faccio fare la pipì della pipì. No, e adesso parliamo di un'altra cosa. Beh, io sono... qualcos'altro. Come qualcos'altro? Ma lei suda? Cosa suda? Nel senso, lei capisce, da più di un'ora avrei un bisognino. Sono preoccupatissimo. Signora Cati, ha fatto pipì? No, guardi, adesso può stare tranquillissimo. Ha fatto tutto? Io sono adesso rilassata. Ha fatto tutto? Tutto. Beh, stupenda questa cosa qui. Parenzo, sei tranquillo? Anche quanti tu? Quanti litri? No, adesso vuoi sapere il dettaglio? Non ho calcolato, non avevo il boccale, non avevo da misurare, niente. Però copioso. Ma non credo che sia importante questo. No, copiosa. La cosa più importante è la galanteria. Sappia una cosa, signora. D'estate, bere io bevo tanto. Molto. Io tantissimo, 2 litri al giorno, anche 3. Ecco, bravo. No, una bottiglia in macchina. No, queste sono cose importanti da dire, perché la e gente... E poi mangio tanta frutta io. Oggi ho mangiato 4 frutti. Beh, certo. Ti faccio un appello. Dica, perché si danno sempre messaggi distorti, la trattativa Stato-mafia, invece la parola di lavoro importante. Allora, lei dica questo. Testimonio che fare la pipì più volte al giorno d'estate è una cosa importante. Poi parleremo della trattativa automatica, come tutte le cose è importantissimo. Beh, più fare pipì anche le altre cose sono importanti, signora Cadia. Comunque importante è sapere usare il cervello, ma questo non c'è dubbio, certo. Io adesso vi saluto perché devo vedere Kung Fu Panda. No, come Kung Fu Panda? Che c'entra Kung Fu Panda? No, ho messo su a Margherita Kung Fu Panda. Lei mi ha chiesto, c'era un DVD sulla storia di Verdini. Vuoi vedere un cazzo animato su Verdini, Marghe? No. Ha detto di no, beh, giustamente. I titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Vertice Monti Orlando, uniti in difesa dell'euro, subito le misure anticrisi decise dall'Europa. Monti, fine del tunnel vicina, ma basta con lo scontro tra i partiti. Berlino e la Bundesbank frenano ancora, la BCE si occupi solo di stabilità dei prezzi, limiti al fondo salvastati, lo spread risale, le borse in ribasso. Disoccupazione record, a giugno quasi 3 milioni di senza lavoro, in un anno aumento del 37%, massimi storici anche in Europa. Bersani, leali con il governo ma pronti ad ogni evenienza, alternativi alla destra, riconoscimento dei diritti, lavoro, immigrati e unioni omosessuali. Si è dimesso il presidente della regione Sicilia-Lombardo, aggredita la nostra autonomia, poco prima la nomina di un altro assessore, nuove elezioni in ottobre. Tra poco Federica Pellegrini a caccia dell'oro nei 200 stile libero, tutti male gli altri azzurri del nuoto, polemiche sulla preparazione atletica. Bruciano da ieri diverse aree verdi di Roma, anche a ridosso del centro, fiamme poco lontano da San Pietro, chiuse alcune città, alcune strade in uscita dalla città. I misteri del caso Borsellino. Parla il fratello Salvatore Borsellino. E a proposito di Loris D'Ambrosio, il consigliere giuridico del Presidente della Repubblica, morto di infarto pochi giorni fa con grandi polemiche, dice: beh, io non ci credo così tanto all'infarto. Conosco persone che hanno subito polemiche e attacchi ben più gravi di quelle che ha subito D'Ambrosio e che non sono morte di infarto. I misteri della trattativa Stato-mafia, Salvatore Borsellino, Papa Luciani. In un paese in cui anche un Papa come Papa Luciani non sono chiare le cause della sua morte, questi tarli possono rodere il cervello, anche se sicuramente li cacciano via. Poi contro Napolitano ha ostacolato i PM di Palermo. C'è da pensare se il presidente di tutti gli italiani debba, come è successo, a mio avviso, mettere degli ostacoli sulla strada della giustizia, come ritengo che abbia fatto Napolitano attaccando la procura di Palermo così come l'ha fatto. Ho un tarlo, dice poi Salvatore Borsellino. È un tarlo che mi ruota la testa. Come mai tante persone muoiono per infarto? Troppe persone muoiono per infarto. Signora Katia? Sì, eccomi. Che dice, signora? Che ci voleva dire? Al di là della... Mi ha dato anche il tempo di mettermi un po' di burro cacao. Dove, signora? Sulle labbra. Ah, già, dove è vero. Vuole mettere lei? Io solo sulle labbra. Beh, no, ma chiunque... Io. Beh, perché invece io. Dove perché invece altre persone io. Dove mettono burro cacao, scusa? Non lo so, io ho detto io. Non mi interessa degli altri. No, certo, ma cosa voleva dirci allora? Volevo parlare dell'omosessualità. Intanto volevo puntualizzare una cosa. Sì. Che, mi scusi del mio italiano. Ma non si preoccupi, molto, vada. Perché purtroppo io da piccola stavo perdendo l'udito e quindi sì. Credo di aver perso delle basi di italiano. Vabbè, dunque? Perché fino a 10 anni, lei capisce? Sì. Però, vabbè, ho recuperato. Ha recuperato. C'è di peggio. Sì. Allora, volevo dire, innanzitutto, Storace ieri sera non si poteva sentire. In che senso? Scusi se prendo un altro discorso. È perché la pena di morte è qualcosa che mi pugnala. Pena di morte, non è la pena per, di morte. Per chi uccide che, i bambini, sì. Che risolve i problemi. Sì, ma brava. Il carcere duro. Brava. Ma duro. Brava, duro, signora. Duro non si può. Brava, ma signora. Duro. Ma duro che devono lavorare. Addirittura. Devono produrre. Certo, lavorare nel carcere. Produrre. Non ai lavori forzati. Sa quelle immagini dei film dove spaccano le pietre, sì. No, non dico spaccare le pietre, ma lavorare. Devono capire. Quello che cosa hanno, gli è successo, no, combinato. Signora Katia, nuova editorialista della Zanzara, andiamo signora in provincia Katia, di Latina. Una cosa? Sì, aspetta un attimo. Sì. Lei la trasmissione mi piace molto, perché è molto questa... moderna. Sì. Ma siccome sto facendo la pizza per mia figlia, lei le metterebbe le acciughe o no? Prego? No, sto facendo la pizza per mia figlia, perché alle 8:30 quando c'è la Zanzara mangia. Le acciughe lei le metterebbe sulla pizza o no? Dipende, se è alla napoletana sì. Che non vorrei che fossero troppo piccanti, scusami Cruciani, non vorrei che fossero un po' troppo piccanti magari poi, no? No, guardi, a me piace il piccante. Ah, le piace il piccantino, Sì, mi piace certo. Tutto, veramente sono una mangiona. Certo, anche perché poi il piccante, no? Signora Katia, resti lì, piccante, resti dolce, lì. Tutto. Resti lì, certo. Pietro da Milano, buonasera, Pietro da Milano. Sì, buonasera a lei, caro Cruciani. Vada, vada. Intanto la ringrazio per la sua simpatia. Sì. Ogni tanto mi capita di ascoltare la radio e combinazione oggi l'ascoltavo mentre parlava della vergogna per gli italiani sul caso di Cassano che monopolizza un pullman e dei dipendenti danno molta attenzione più a lui che a tutto il resto degli italiani che stanno lì ad aspettare l'aereo. Sì. E mi associo con lei per quanto riguarda la vergogna. No, adesso non esageriamo, ho detto. Mi associo con lei. Ma vogliamo chiamare questo signore che è il presidente dei sì, non so che cosa, aeroporti di Puglia, sì, sì. Quello che dovrebbe governare gli aeroporti di Puglia, ha detto è un caso di inestetismo. Questo è di inestetismo. Ecco, inestetismo, va bene, io va mi bene. Vergogno di questo inestetismo. Si vergogna, va bene, anche si vergogna. Se è troppo poco, sì. Però devo dire che mi vergogno di tantissime altre cose. Si vergogna di tante cose. Beh, per esempio come il fatto che noi in Italia abbiamo l'uomo più disprezzato del mondo che ancora oggi, dopo essere stato disarcionato dalla Presidenza del Consiglio, continua ad imperare indisturbato in Italia senza che nessuno riesca a fermarlo. E chi sarebbe, scusi? Berlusconi. Quel signore pedofilo. No. Pedofilo, veramente, pedofilo. Abbia pazienza, no, Giuseppe. Pedofilo, tante accuse ci sono state, quelle di pedofilia ancora no, bisogna dire. No, no, no. La mia opinione è che lui sicuramente è stato un pedofilo. Ma che vuol dire? Ma lei è completamente pazzo. Ah, ecco, la Pietro, sì, è pazzo, è sicuramente è stato pedofilo, ma che vuol dire? Ma si rende conto della gravità delle cose che ha detto o no? Cioè, no, no, no, no, no, me ne rendo conto. Vabbè, punturina subito, su, una bella punturina e passa tutto. Punturina, bravo, passa tutto, non si preoccupi. Ma più punturina, più 12 giorni di degenza. Beh, punturina più degenza, naturalmente. Punturina, punturina. Perché sarebbe mandarlo in giro così, eh? Perché sarebbe stato pedofilo, secondo lei? No, no, scusi Pietro, per curiosità. Ma perché secondo me, parlando di Noemi Letizia e di qualcun sì. altro, quando lui li frequentava, che andavano addirittura a trovare nell'albergo, sì. Dichiarato, se non ricordo male, addirittura dalla Letizia, che lei sì. a 9-10 anni andava in camera d'albergo da Berlusconi sì. e lui gli suonava la chitarra e gli cantava le canzoni. Insomma, al di là di questo, ma lei lo sa che al di là di questo la pedofilia è un'altra cosa però, eh? La pedofilia, lei ne ha conoscenza, me. Sì o no? No, sì, non sì, è troppo sì, a conoscenza. Sì. No, no, no. Vabbè, troppo, punturina comunque, subito, su, comunque, una bella punturina. Pietro, dove si trova esattamente? Mi consigli la puntura giusta che me la faccio. Io sono a Segrate. No, ma guardi, no, gliela devono fare, guardi. A Segrate, vicino anche alla Mondadori. Guardi, esattamente. Esattamente, sì. Forse avrà dei cattivi influssi da là, le sono arrivati. Lei lì, bel panorama. Bravo, una bravo, bella punturina, bravo. Caro Pietro, una punturina bravo, veloce, bravo, bravo. Arrivano dei signori in camice bianco, stia tranquillo, che non succede nulla, non succede nulla, qualche ora di degenza, lei mi sembra grave, ma non troppo, no, però... qualche ora. Beh, qualche ora, quanto vuoi lasciare in degenza? Beh, almeno un paio di giorni di controlli. Dici? Già che ci siamo, sì. Signora Katia? Se venisse a trovarmi guardate, parente, se non ci foste voi... Io penso che non sopravviverei. Eh beh, addirittura adesso perché in questo mondo così ovattato, sì. in questo mondo che non c'è né carne né pesce, sì. in questo mondo che sento cose, ma lei si è reso conto? Sì. Ma la gente non è che non capisce. Sì. È proprio ovattata. Ovattata. Ma lei, signora? Signora Katia, ma intanto le abbiamo fatto fare la pipì, che quello è fondamentale. Quando vabbè, sente ma la quella voce... ormai è superata. È superata, certo, però... Quando sente la voce di signor Cruciani, signora Carla? E guardi, mi scusi, sono curiosa. Sì. Signor Cruciani. Sì. Ma quanti anni lei può avere? 28 anni? Perché che... alla radio sembra un po' di più. No, dal beh, telefonino... Molto di meno. Decisamente di più. Quale telefonino, mi scusi, signora Katia? Io dal telefonino, lei mi ha chiamato e io sto parlando dal telefonino. Ah, lei dice dalla comunicazione. Dal mio telefonino. Dal suo telefonino. Guardi, decisamente, voce, decisamente di più. Non sono a casa, sono per strada. Decisamente di più. In qualche modo la eccita, in qualche modo, la voce di Cruciani. Ma perché devi no, dire queste no, cose? No, non è che mi eccita, anzi, mi rimane simpatico. Giuri, giuri, giuriti tutto l'anno, l'amore camerasti di ritorno. Giuri, giuri, giuriti tutto l'anno, l'amore camerasti di ritorno. Le dimissioni di Raffaele Lombardo, presidente della Sicilia. Diciamo la verità. La Sicilia sopravviverà. Questo lo dobbiamo dire subito, no? Champagne. Ma champagne che? Per brindare a un incontro. Ma perché champagne? Champagne stasera. Stasera il migliore, fatto venire dalla Francia apposta per festeggiare l'addio del governatore. Ciao Lombardo, ciao. Ciao amico mio. Ciao. Le imprese più recenti di Raffaele Lombardo alla radio e non solo. Ma ho detto che mi dedicherò all'agricoltura, quindi potrei piantare e coltivare marijuana, per esempio. Potrei farlo, credo che sia un reato e quindi incorrerei in sanzioni gravissime, però volendo. Se lor signori da Roma o qualche pseudo industriale pretende che io licenzi questa gente o la ammazzi, vada al diavolo, vada a morire ammazzato chi che sia. Io non metto sulla strada questa gente. Ma io voglio fare un'altra domanda. Sono tanti, facciamo, ma erano di no, più. Ma è un'altra, non ne abbiamo assunto uno solo. La mia domanda è tutta non li potevamo eliminare. È tutta i forni crematori non sono leciti. Sono ancora messi. Sì, ma a proposito di forni crematori. L'amore camera, se ti lo tonno. Noi dalle agenzie di rating, ne abbiamo tre, come dire, sul collo, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, siamo qualificati come l'Umbria e il Veneto, mentre siamo un passo avanti rispetto al Piemonte. Raffaele Lombardo si è dimesso. Questa è la Zanzara 800240024. Carmine da Napoli, buonasera Carmine. Io conoscevo un Carmine Fotia. Sì, sì. Carmine, dica. Sì. Sì, buonasera. Senta, io volevo intervenire per la faccenda di Fioravanti. Ma ancora? Molto pacatamente sul fatto che lei ha detto che cosa c'è di male. Ma a che fare? A fare l'intervista? Certamente no. Poi lui ha fatto molto male a tanta gente, su questo non ci sono dubbi. Io voglio dire solo questo: c'è di male sicuramente il modo con cui lei ha fatto l'intervista, nel senso che il genuflettersi in quel modo. Ma cioè, genuflettersi cosa? Ma di che parla? Guardi, di cosa sta parlando? Non mi sono genuflesso nei confronti di nessuno. Allora, Carmine, la smetta, su, basta con questa storia di genuflettersi. Allora, se lei mi fa parlare, la spiego subito. Il modo con cui lei ha dialogato con quella persona, secondo me, ha fatto della violenza alle persone che hanno da quella tragedia. Ma che ne sa lei? Che ne sa lei che ha fatto violenza? Ha avuto qualcuno morto a Bologna? Ma questo non e allora basta, niente. Come non questo significa? Non... Che si fa interprete di quello che possono pensare o di quello che possono subire gli altri? Ma lei non, cioè, è stato un modo molto molto violento. Ma quale modo violento? Lei. Ma di che sta poi parlando? Un'altra cosa, io non lo so, cioè, lei anche con questa signora, questi doppi sensi, il burro di cacao. Ma è la signora che l'ha detto, ma la signora no? Voglio dire, ma sta giocando con noi anche lei. Ma io glielo dico proprio in napoletano, ma proprio o scorna lei non ce l'ha. Ma che vuol dire? No, traduca. Traduca la vergogna. La vergogna, lei dovrebbe avere il senso della vergogna, o scorna. Lei non ce l'ha la vergogna. Cioè, è possibile che una radio come sì, come la radio di Confindustria deve fare questa fine? Io non è possibile, sì, è possibile. È una bellissima fine, tra l'altro, non è una brutta fine. È ottima, però. Ma sicuramente in termini di ascolto ecco. Volerà certamente. Ecco, bravo. Dato che in Italia pensiamo solo a questo. Sì. In termini di ascolto probabilmente come lei scasserà, come dice De Magistris, il mio sindaco, insomma. Quindi i suoi editori evidentemente gli interessa questa. Ah, no, perché a chi è che non interessa? Come? A chi è che non interessa? Sì, ma c'è un modo. C'è della decenza, lei dovrebbe essere un pochino più decente. Che cos'è questa storia di questa signora? Che lei che mette sta musica della pipì, ma cos'è? Signora Katia? Signora Katia? Che musica? Questa qui è l'altra, vera? Risponda lei. Scusate, uno psicoterapeuta lì, uno psicologo, non lo so. Io mi rendo conto che sento delle persone che, mamma mia, ti cala tutto. ti cala veramente tutto. Ah, ti cala tutto, ti cala tutto. Vabbè, sono cala tutto. Dica qualcosa, signor Carmine. Che coraggio avete voi? Cosa devo dire? No, no, lei deve stare zitto. Signora Cadia, dica qualcosa a Carmine. No, guardi, io non lo so, questo signore non è che non capisce, questo signore deve leggere parecchio. Deve, non lo so che deve fare perché non lo conosco. Deve capire. Deve cercare di capire. Cos'è la zanzara? Deve cercare di chiedere a qualcuno. Non lo so perché io sento delle cose madornali. Scusi, signora Katia, il signor Carmine ha criticato la zanzara dicendo che è una trasmissione indecente. Cos'è questa cosa che la signora ti mette il burro di cacao? Ma se voi ironizzate, ai doppi sensi di Cruciani che onestamente sono schifosi, tutto qua. Ma lascia come donna, del resto lei come donna, io non lo so, evidentemente ma può pensare. Vuole? Ma lei le conviene stare zitto, secondo me. Fa più bella figura. L'ho messa un pochino come figura che gli ma fa quale poco, cura? No? Ma io non le dico che lei si deve curare, però parli con qualcuno. O sì, più di qualcuno. Guardi, io che sto ha bisogno delle cose oggettive. Ha bisogno di parlare lei. Signora, lei può anche rispondermi, non offendermi così a punto. Lei può anche rispondermi. Guardi che lei ha ragione, Cruciani. Lei sì, o non certo. capisce o lo fa apposta. Secondo ma me guardi, tutte e due le cose. Guardi, io sto dicendo delle cose oggettive, sì, come oggettive. La matematica, quindi non c'è sono... dubbio. Ma quale matematica che lei non sa neanche quanto fa 2 più 2, secondo me. Brava. Ma può darsi, signora, può darsi. Ma comunque no, può darsi. È indecente, detto, può darsi. È indecente il linguaggio che sta usando Cruciani ma e lei con questa storia della BB e tutto il resto. Vabbè, comunque io vi saluto. Grazie Carmine, grazie. No, ma lei ha sbroccato come tante persone hanno sbroccato. Brava. Allora, Katia, resti lì, 800-24. Sì, sì, certo. Il passo più lungo della loro gamba oggi si trovano che si devono curare, non hanno i soldi. Vabbè, questo è la paladina della zanzara. Katia, grazie, resti lì, 800-24, un grande ospite con noi, caro Parenzo. Secondo te chi ha invitato? Umberto Eco. Ma che c'entra Umberto Eco? Cosa c'entra Umberto Eco? Ma bene invitarlo Umberto ma Eco. Ma non è lui. Non è Umberto Eco, non è Umberto allora Eco. Allora il filosofo Maramao, sicuro. Ma non c'è, ma figuriamoci. Maramao andava sempre a zapping prima. Bravissimo. Adesso allora un altro l'hanno mandato via pure Severino. Da zapping, eh? Chi? Emanuele Severino. Ma che c'entra Emanuele bellissimo. Severino? Bellissimo. Ma chi perché però stai? Però sapere, professor Severino, Kant. Ma oggi. Non c'è Severino. Vabbè, allora ci sarà un operaio un operaio della Ilva, dell'Ilva. Ma no, un operaio dell'Ilva, no, non c'è no. un operaio dell'Ilva. No. E con noi no, c'è suo fratello dice che vuole fare, vediamo un po' se ci arrivi. Suo fratello sì. dice che vuole fare l'agricoltore. No. Perché no? Non ho capito, no, perché no? L'agricoltore. È con noi, lo abbraccio fortissimo, Riccardo Bossi, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Come sta? Come sta? Bene, voi come state? Bene, caro Richard. Ha capito che ci divertiamo come matti noi, ci divertiamo sì, come matti. Sì, non ho seguito la questione precedente. No, ma è una questione complicata. Sono due ascoltatori che bisticciavano tra di loro su cose che non ho capito nemmeno io, guardi. Perfetto, le non assicuro. Ho capito nemmeno lei, sono posto. Scusate, ma mentre suo fratello fa l'agricoltore vedo delle foto sue a Formentera con una bellissima ragazza che dovrebbe essere la sua fidanzata. C'è una differenza tra... fidanzata, sì. Appunto. Ma da più di un anno e non si chiama Sonia, si chiama Sara. No, vabbè, ma al di là di questo, dei nomi, eccetera. No. Fate una vita un po' diversa in questo momento. Sono semplicemente andato a fare di qualche giorno di vacanza, se poi mio fratello ha deciso di fare agricoltore, ben per lui, insomma. Ma lei lo farebbe l'agricoltore? Perché no, voglio dire, se ci fosse dell'opportunità di business e di guadagno, assolutamente sì. Come ma è la Formentera, non così... Che hai detto, Parenzo? Sì, no, diventata Formentera, non con i soldi di Belsito. Ma che c'entrano i soldi ma sempre si soldi di non Belsito? Si assolutamente. Parenzo, stia tranquillo, voglio dire, pago le tasse come tutti voi. Quanto ha speso per la vacanza? Ma che te ne frega quanto ha speso per la vacanza? Costa poco. Beh, Formentera costicchia, è diventata cara, No? Ah, beh, dipende, basta prendere i voli low cost come ho fatto io, costa poco. Certo. Però fa un po' specie vedere suo fratello che sta là col trattore, con l'altro. Sì, è là e lei a Formentera, proprio in questo stesso periodo. Come mai? Sì, Beppe, perché io posso fare le vacanze in questo periodo. Quindi cosa devo solo fare? Per questo, eh? Solo per questo. Bene, certo. Senta un po', ma è vero che lei ha ancora un ufficio a Via Bellerio? Assolutamente no, perché? No, per un po' di tempo ce l'ha avuto, anche fino a poco tempo. Un collaboratore, per carità. Una sua stanza, come dire. C'era? Ce l'aveva un ufficio, sì? Sì, sì. Ce l'ha ancora? No, no, assolutamente, ma perché io mi occupo di altro. Io le mie società si occupano di sport, quindi lo sapete bene, non è che tre volte mi ripetete le stesse cose. No, ma noi non stiamo ripetendo le stesse cose. Io sapevo che lei aveva, fino a poco tempo fa, mi avevano detto, un mesetto fa, qualcuno mi aveva detto, Riccardo Bossi ha ancora un ufficio a Via Bella. Sai che noi siamo dei curiosi giornalisti, purtroppo, è una brutta razza. Qualcuno mi ha detto... Dipende, qualcuno sì, qualcuno no. Cioè, appunto, qualcuno... Non fa il proprio lavoro, quindi dipende poi come lo fa. Qualcuno mi ha detto, tanto qui le parole non possono essere distorte, siamo alla radio, per cui quello è. Comunque mi ha detto Riccardo Bossi ha ancora un ufficio a Via Bellerio, che non è un crimine avere un ufficio a Via Bellerio. Oh, assolutamente, eh. Ma ci mancherebbe, voglio dire. No, io comunque mi occupo sempre di sport, quindi dentro la politica lo sapete bene, io non faccio nulla. E non vuole, non, e comunque la politica non la vuole fare? Nessuna? Assolutamente no, assolutamente no. E invece non è nel mio prossimo futuro. E cosa le piacerebbe fare nella vita? Ha un sogno lei, signor Bossi, Riccardo ma Bossi? Guardi, io sì, ho dei sogni come tutti. Ecco, il suo sogno, che cosa mi piacerebbe fare? Mi piacerebbe ingrandire la mia società e potermi occupare sempre di più di sport e di eventi sportivi come stiamo facendo. Questo organizzazione di eventi sportivi. Assolutamente, su quello che noi lavoriamo tutti i sacrosanti giorni, quindi se c'è un sogno reale che uno cerca di portare avanti tutti i giorni. Parenzo, ma lo sai che recentemente c'è un signore... Posso chiedere una roba? Però. Sì, chiedi. Ma è strano che un uomo Bossi, no, un padano come lui, vada a Formentera e non in vacanza in Padania, cioè lui così padano. Ma che c'entra? Non è che tutti quelli non è che tutti i padani vanno in vacanza sul lago di Como. Forza. Qualcuno può prendere l'aereo e andare a Formentera. Ma sì, no, è al lago di Como per andare in vacanza, per carità, però ci sono nato, quindi conosco bene la zona. Quindi, ma ogni tanto andare a vedere posti all'estero. Ma lei a Napoli ci andrebbe? Ecco, al sud ci andrebbe. Io a Napoli ci sono andato recentemente, ho degli amici a Napoli. Uno dei miei avvocati di Napoli, quindi vedo un po' lei. No, perché suo fratello fino a poco tempo fa, che è sempre quello più in vista per un periodo tra i figli di Bossi, diciamo, aveva detto che lui non era mai andato al sud. Invece lei c'era andato. Ma non è vero, mi sembra che mio fratello sia andato al sud, se non era un anno o due anni fa, perché è in Sicilia. Sì, è vero. Perché è stato anche riportata questa cosa da alcune testate. Ma infatti prima di quel viaggio. Ah, non lo so, questo non lo so. Io conosco molto bene il sud Italia, dalla Puglia alla Sicilia per motivi agonistici, avendo corso in macchina tanti anni nei rally, quindi sia la zona del Salento che la zona della Sicilia la conosco perfettamente, l'ho sempre frequentata e sono posti bellissimi, posti di persone splendide, quindi no. Ecco, ma lei... Napoli anche, quindi. Sì, Napoli anche, ma lei vorrebbe l'Italia divisa in due? Le piacerebbe l'Italia divisa in due? La Padania e poi il resto dell'Italia? Questo me lo chiede per l'intervista che ha fatto mio padre sulla Repubblica? No, vabbè, ma questo, il separatismo non è una cosa, come dire, nuova nella Lega, No, assolutamente. Ecco, lei tra i suoi sogni, i sogni di Riccardo Bossi, c'è l'Italia separata? No, detto francamente io personalmente non faccio sogni di politica. Beh, qualcosa... Li lascio mio papà, li lascio i collaboratori di mio padre, i politici veri, io non sono politico vero, non l'ho mai fatto politica. Vabbè, ma non è che bisogna fare per forza politica per pensare che... Per carità, per avere questi sogni, no, ma non è il mio sogno, io... Cioè lei vorrebbe l'Italia unita, insomma. Abbia pazienza, io non posso sognare. No, certo, vorrebbe l'Italia unita. Vorrei un'Italia che andasse meglio di quella che va adesso. Però unita. Ma non è facile. Però sì, unita. Penso che uniti si potrebbe venire fuori da questa crisi, ma non è assolutamente facile. Cioè, questo è chiaro, ma mi dica la verità, Bossi, il separatismo, la Padania, sono tutte cose che non... No, la Padania esiste, c'è una realtà molto consolidata e forse una delle realtà più forti economicamente che c'è in Europa, questo è un dato di fatto, voglio dire, la regione Padania, dipende come lei la interpreta, è sicuramente una delle realtà più produttive. E quello va bene. Quello, ma come nazione esisterà o no? No, non esisterà mai. Ma questo non lo so, voglio dire, non dipende da me se esisterà, se non esisterà una Padania politicamente divisa dal resto dell'Italia. Io la vedo sempre... Le piacerebbe? Ma guardi, io... E lei è indifferente. Ma c'è, sì, non gliene frega niente della Padania, diciamo. No, non è che non me frega niente. Sono della Padania indipendente. Indifferente per un motivo molto semplice. Non occupandomi di politica, cerco di vedere le cose a 360 gradi, non con i paraocchi. Invece... Senta, il capo della Lega chi è? Lega di Maroni, il capo della Lega chi è oggi? Beh, il segretario federale della Lega oggi è Roberto Maroni. Dunque, il capo, no, sai, su questa cosa del capo, molti dicono ancora il capo è Bossi. Molti, insomma, alcuni. Mio padre ha fondato la Lega Nord insieme, va bene. E quindi questo è un dato di fatto. Poi su chi comandi oggi dal punto di vista politico, il Maroni, perché è stato eletto segretario federale. Mio padre ha un ruolo da presidente, un ruolo che prima non c'è mai stato, un ruolo che è stato creato ad hoc, un ruolo che penso sia giusto dare a una persona che abbia fondato tutto questo, chi poi lo guidi e sia la prima guida di un esercito. Però oggi è Maroni cambia, quello che comanda, no? Oggi quello che comanda è Maroni, diciamo la verità. Ma no, ma penso che se la dividano bene la questione, perché si parlano di quello che scrivono. Quindi. Ah, cioè lei dice che alla fine qualche potere ce l'ha suo padre. Guardi, una delle poche cose che ho imparato nella mia vita, poche assolutamente, sì, è quella di prendere i giornali, leggerli e farmi un mio pensiero, se possibile. E magari incartarli e buttarli al cesso, no? Incartarle e buttarle al cesso, questo l'ha detto lei, magari incartarle e buttarle nel contenitore del raccoglimento la carta. Ah, questo spesso le accade, quello di prendere i giornali e di buttarli perché scrivono tutte stupidaggini. No, non buttarli, se li devo prendere li leggo, però poi mi faccio una mia idea, che è una idea piuttosto chiara, insomma. Senta, ma leggere qualcosa che uno scrive di polso, così, insomma, perché sappiamo i giornali in Italia come scrivono, molti fanno scrivere i giornalisti un po' quello che è la loro interpretazione, poi io mi faccio la mia. Senta, scusi una cosa, ma suo padre ha detto pochi giorni fa che l'Italia è un paese di merda. L'ha detto perché. Chi ha detto questo? Suo padre. Mio padre ha detto che l'Italia è un paese di merda. Sì, se vuole glielo faccio sentire. Dipende in che senso l'ha detto che è un paese di merda. Lo vuole? No, per il federalismo non applicato, non mi ricordo adesso esattamente, però ha utilizzato questo. Non è facile, probabilmente un paese che sta nella merda, allora se è così, allora è vero. Se è un paese che sta nella merda, allora ha ragione. Vuole il Bossi vero o il Bossi interpretato da Parenzo? Lei lo conosce il Bossi interpretato da Parenzo ogni tanto? No, io preferisco quello vero. Interpretato da Parenzo glielo lascio a lei e ai vostri ascoltatori. Vabbè, ma lo conosco bene, quindi non. No, vabbè. Il Bossi interpretato da Parenzo lo lascio a voi, deve essere anche divertente. Ma come lo fa secondo lei? L'ha mai sentito? Ma non lo voglio neanche sentire interpretato da Parenzo. Vabbè, su. Si scherza, sennò altrimenti. Sto scherzando assolutamente. No, voglio un giudizio però da lei, un giudizio sincero. Un giudizio sincero, vai Parenzo, sincero. Mi faccio sentire Riccardo. Parenzo. Vai. Saluto gli amici di Radio Padania Libera. Ma no, è Radio 24. Dai zitto, cornuto, dovresti già essere mandato via al confino all'Elba. Perché mandato via, scusi? Io voglio dire una cosa, Riccardo. C'è un posto dove fare le vacanze, c'è un bel luogo, un bel sito, c'è dove fare le vacanze. Voglio dargli un bel sito dove farle. Ah, un bel sito dove farle. E quale sarebbe? Quale sarebbe? Bella questo, un bel sito dove fare le vacanze. Un bel sito dove fare le vacanze. Consiglierei a Parenzo qualche anno di sigaro. Per avvicinarsi alla voce di mia pacca. Il signor Garibaldi, senza fare pubblicità occulta, lo consiglio per qualche anno, potrebbe avvicinarsi. Cioè la voce deve essere più rauca, più istigata dal sigaro. Poi nel respiro dovrebbe, insomma. Ma nessuno gli ha mai detto di smetterla col sigaro, sì? Guardi, in tanti gli hanno detto di smettere di fumare, sarebbe cosa buona e giusta, però papà, lasciamolo fumare. Io, se fosse per me, lo farei smettere di fumare, ma non è facile convincerlo, diciamola così. È un piacere che gli voglio lasciare, anche se non fa per nulla bene. Ma di Maroni lei che pensa? Mi dica la verità, però, che un po' ha tradito suo padre, una coltellata alle spalle e poi gliel'ha data. No, io ho un pensiero tutto mio che va al di là di tutto quello che è scritto, anche perché personalmente Roberto lo conosco da molti anni, mi ha visto crescere. E qual è il suo pensiero? Si è sempre comportato in maniera splendida. Io altrettanto con lui, anche se ci vediamo, ci frequentiamo pochissimo. Ma per semplicemente perché non ci si incontra, però Roberto Maroni con me è sempre stato molto carino e persona per bene, quindi il mio pensiero è assolutamente positivo. È il giusto leader per la Lega in questo momento? Sì, potrebbe essere dopo quello che è successo, insomma, dopo queste rotture di scatole che sono venute fuori in questo momento. La Lega ha solo bisogno che le cose stiano tranquille, che si faccia il lavoro della politica come si deve fare. Speriamo che in questo momento Roberto sia pronto, e sicuramente lo è capace di portare avanti tutto affinché nelle prossime elezioni ci sia, insomma, un po' più di fiato, ecco, un po' più di però lei è fiducioso, mi sembra che in corona, cioè Parenzo, Riccardo Bossi, insomma, sì, in corona Maroni adesso non c'è bisogno di incoronarlo, io non incorono nessuno, io però ha fiducia in Maroni assolutamente sì, perché è una persona che e nella Lega Nord praticamente da quando è nata ha sempre fatto bene, e quindi non vedo perché debba essere con suo padre ci sono stati degli scazzi, va bene, nella vita chi non non ha degli scazzi sugli occhi dei miei soci tutti i sacrosanti giorni. Se uno non ha degli scazzi, se uno non ha un confronto, dove vuoi andare nella vita? È stato un privilegio. Obbligatorio nella vita, se no io la penso a modo mio, tu la pensi a modo mio, a modo tuo, Parenzo la pensa a modo suo, andiamo ognuno per i cazzi nostri, è sempre meglio avere un confronto, no? Quando... No, ma c'è Riccardo. No, volevo chiedere questo, che impressione le farà ricevere, questa domanda importante, la prossima tessera della Lega firmata Maroni e non Bossi? Ma che gliene frega? Ma guardi, ma non è manco iscritto, magari non mi cambia la mia vita, anche perché... Ma lei è iscritto? No, forse neanche, perché sono anni che non ho la tessera del partito io. Cioè, e non la prenderà. Ma non la prendo perché sennò mi si rompe le scatole. Io ho sempre votato Lega Nord, voterò sempre Lega Nord. Cioè, di cosa stiamo parlando, voglio dire? Conta avere una tessera per il proprio pensiero politico? Penso di no. No, figuriamoci, io odio le tessere. No, tifo il Milan, non ho bisogno di essere tesserato allo stadio per andare a vedere il Milan o per tifarlo. Però i tesserati devono dare anche dei soldi, eh. Lei i soldi pare che l'abbia sempre ricevuti, invece. Questa è una considerazione che non è mia, la lascio a chi fa il mestiere di controllare, controllerà. Ma è vero che lei prendeva dei soldi da Belsito, 35.000 in contanti? No. Mai preso soldi da Belsito lei? No, l'ho sempre dichiarato. Vabbè, perché c'è un processo in corso adesso, eccetera. Eccetera. Faranno, ci saranno. No, certo. Addirittura... Faccio fare il lavoro a chi deve farlo e in maniera giusta. Cioè lei dice, io non ho mai preso soldi da Belsito? Mai. Anche no. Per esempio, hanno parlato i giornali nella cosa della Pricewaterhouse, nel controllo dei conti. Sì. Pare che ci siano i soldi per il veterinario del cane, per l'abbonamento della TV, gli anticipi. Non sono cose che personalmente so e mai nessuno me le ha date. Quindi io cani non ne ho. E abbonamento alla TV intestata a sottoscritto personale, quindi se lo paga lui, non glielo pagano gli altri. Però, allora questi revisori dei conti hanno fatto i conti sbagliati? No, non lo so di chi stanno parlando, non penso che stiano parlando di me. Beh, così ho letto io. Mi dica dove l'ha letto, voglio dire, questo che si parla di me, del mio abbonamento TV pagato alla Lega Nord, perché guardi, c'è qui di fronte a me la mia compagna che sta sorridendo perché dice gliel'ho proprio pagato io recentemente, quindi. No, ma adesso non quelli di risate su queste cose. Non quelli di adesso. Qua si parlava 35.000 euro in contanti sarebbero stati usati da Riccardo Bossi, uno dei figli, affitto di casa, ristoranti, multe, meccanici dell'auto, ma anche il veterinario del cane, l'abbonamento alla TV satellitare e persino anticipi in contanti all'ex moglie. Di lei si parla, non è che cioè sono cose... Io sono sempre dell'idea che parlare quando c'è qualcuno che sta facendo il proprio mestiere, sta verificando, lasciamo che sia verificato tutto e non prendiamo cose che sono state scritte. Come al solito ho appena detto a voi... Che chi scrive interpreta a proprio modo, perché io devo risponderla in questa maniera. La paghetta c'è mai stata? Siccome hanno scritto anche di una paghetta di 5.000 euro, c'è mai stata? Pagata dal partito, poi se suo padre le vuole dare 5.000 euro, chi se ne frega? Dico purtroppo perché, però è così, io pago le tasse, le ho appena pagate adesso, le ripago il 20 d'agosto, vado avanti a pagarle ogni mese. Ma quello tutti sperano. Quanto ho pagato di tasse non mi ricordo, devo chiamare il mio commercialista che penso adesso non sia in ufficio. No, ma al di là di questo, no, siccome hanno scritto delle cose, noi chiediamo perché leggiamo delle cose, no? La famosa storia della paghetta è falsa totalmente, lei ha mai ricevuto una paghetta da 5.000 euro da suo padre tramite il partito? Mai. Ma mio padre, scusi, come le può dare tutti i soldi che vuole? Io, togliamo mio padre di mezzo, parliamo di me, io ho una figlia, giusto? Se voglio dare qualcosa a mia figlia, sono beati, cazzi, miei, quello che io do a mia figlia, e nessuno mai si deve permettere di venire a criticare quello che io do a mia figlia, se è dato dal mio conto corrente a mia figlia. Non c'è dubbio, su questo lei ha perfettamente ragione. Già risposto alla sua domanda. Dipende da dove vengono quei soldi, però. Ma cosa sta dicendo? Beh, se i soldi diventano... Assolutamente no. I soldi vengono dal conto del partito, è diverso. Ah, per carità di Dio, ma lei sta dicendo un'altra cosa. Lei stava chiedendo il mio padre a me, il partito, a me 5.000 euro al mese non me li ha mai dati, quindi. Però suo padre sì, evidentemente. Ma lui sono caso, sono fatti di mio padre, se mi vuole aiutare o se mi ha aiutato. Certo. Mio padre non l'ha mai aiutata. Come no, ha voglia. Ha voglia. Suo padre l'ha aiutato nella vita, mio padre l'ha aiutato me. Il padre di Parenzo ha aiutato Parenzo. Non c'è dubbio. I genitori, se possono dare una mano ai figli. C'è una piccola differenza. Assolutamente no. Guarda, allora, voglio dire, sembra che questo sia qualcosa che di così scandaloso. No, però scusi, l'ipotesi. Però mio papà, facendo il libero professionista e non ricevendo finanziamento pubblico, non mi risulta che mi abbia aiutato con soldi pubblici. Non risulta neanche a lei, forse. Ma dopo, nemmeno a me risulta che il mio mi abbia aiutato con fondi pubblici. Appunto, dico, vediamo. Io anche a me, però. Lasciamo fare il proprio mestiere. Chi lo non fa, c'è dubbio, non c'è dubbio. Le accuse sono quelle, però. No, sì, le accuse no, di... non sono quelle, sono una cosa ben diversa, dovete andare a leggere gli atti. No, quelle di approvazione... è una cosa un po' diversa per quanto riguarda me, per... non sono proprio come dite voi. No, comunque, insomma, è... lasciamo che le persone lavorino e che evitiamo che tutte le volte si crei polemiche, si creino queste cose. No, ma infatti, ma non le sue. Per carità di Dio. Ah, in generale, beh, in generale se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare, se risulterà che ho sbagliato io pagherò io. Scusi, le accuse per approvazione indebita a cosa si riferiscono? Sono fatti privati, abbia pazienza, voglio dire, se riferisce una cosa che non mi sembra il caso di sui parlare, pagamenti, sono alcuni atti privati, sono delle cose private che se ci sarà modo, perché risponderò di fronte a chi devo rispondere, ma io sono molto fiducioso nella magistratura, quindi lascio che loro facciano il loro mestiere. Bene. Con calma, quando avranno finito mi diranno quello che devo fare. Io se non rido e non accendo la vostra radio c'è una muteria in giro che fa paura. Allora, siamo qui per la conclusione con Riccardo Bossi, figlio di Umberto. Parenzo, ci sei? Sei vivo? Perché vivo? Certo. Ma che stai facendo? Ti sento lontano. No, lontano, stavo semplicemente, adesso ti chiedo anche a Riccardo, perché sto facendo questa pizza per mia figlia. Sì. E non so se facendo? La pizza per la figlia, vabbè. Che bello, ma me la faccia anche a me, mi inviti se fa la pizza, sei così bravo, vengo a mangiarla volentieri. No, è un disastro, altro che bravo. No, ma che ma non è un grande chef. Ma quale grande chef? Bravo, la accetto volentieri, la pizza io è un tipo di cibo che amo molto, quindi. Allora? Cos'è che ama poi oltre alla pizza, diciamo, tra le cose della vita? Amo mia figlia, amo la mia donna, amo mia mamma, amo mio papà. Quante volte fa l'amore lei in volta? Cose normali. Come, che hai detto, Parenzo? Dico, quante volte fa l'amore? Ma che te ne frega di quante volte fa l'amore? Quante volte faccio l'amore io? Tante, sono consumato. Tante? Tante per quello che il mio fisico riesce a fare e per quello che si consente. Voglio dire, ma che te ne importa, Parenzo, di quante volte fa l'amore Riccardo Bossi? Parenzo, di quante volte ma non lo so, che ne sia? No, perché umanizza il personaggio che si ha come voce, lo rende anche un toro in un certo senso, nel caso del un toro. Sono un toro, sono toro anche perché sono nato il 6 di maggio, quindi... Dunque lei è un grande amatore, si professa un grande amatore, adesso mi ha messo la quallina in bocca. Io sono un grande amatore della mia donna. Non sono un grande amatore, ma quante volte? 6, 5 alla settimana? Ma che te ne importa? 5 a settimana, no? Dice. Vabbè. 5 a settimana? Sì. Ci provo, voglio dire. Poi ma preferisce, ecco, questo è importante, la mattina o la sera? Perché questo è importante? Guardi, sa che io non ho orari, Parenzo, perché sono una persona un po' così, a volte al mattino, poi dipende cosa da fare, se al mattino mi sveglio già che Guda lavora, ma se di esaminare faccio un po' fatica, magari la sera sono più rilassato, però dipende. No, perché magari la mattina ci sveglia con l'alito così un po' pesto, non so, immagino. Lei non so con che alito si sveglia, mi sveglio sempre con l'alito bello tranquillo. No, lei la notte con utilizzo dei prodotti che sono dentifrici e quant'altro che mi mettono l'alito bello tranquillo. Ma non è vero, di alitosi, ma se mi dici di no sono contento. Ma non è vero, chi l'ha detto? No, non soffro di alitosi, non sarei parito se lei soffre un problema della compagna. Io sono sempre bello sereno. Una barba, un uomo del Sismi. Perché non esiste neanche più il Sismi, peraltro. Penso, un uomo, una barba finta mi ha detto: guarda, questo il signor Riccardo Bossi soffre di alitosi. Ma che questo dici? No, guardi, non dubito. Io sono una persona che cura e mi aspetto molto. Quindi. Ma perché qualcuno? Che tutto, quindi. Perché qualcuno mi manda un messaggio? Chiedete a Riccardo Bossi se conosce Marco Mazzoli, che è il conduttore dello Zoo di 105. Sarà un amico suo? E allora qual è il problema? Non lo so. Mi chiedono questa cosa qua, e vabbè. Che vuole fare? Magari siete amici, vi frequentate. No, ci conosciamo da tanti anni, quindi. Ma sì, ma sì. Comunque l'indagine in realtà sull'appropriazione indebita era anche su questa famosa paghetta, cioè, Ah, beh, lasciamo fare il mestiere a chi lo deve c'è fare. C'è anche questa, non è che sia su altre cose, È una lettera a bel sito in cui lei ha detto ne ho parlato con papà, eccetera. Comunque lei mi deve dire una cosa, ma se i soldi del partito fossero stati usati per darli anche a lei, sarebbe grave, sì o no? Oppure uno con i soldi del partito uno fa quello dipende. Che vuole? Sì, sì, no, penso che sia una cosa assolutamente grave. No, assolutamente, non scherziamo. Magari lei non lo sapeva. Le venivano qualche non saperlo, adesso non sto parlando di me in generale, però comunque è fatto grave, assolutamente, perché comunque se sono poi fondi pubblici è una... però questo lasciamo, ripeto, io non intervengo mai in queste cose, perché lascio che... No, perché lei dà l'impressione di, insomma, parlando con Belsito, poi uno i soldi è chiaro che venivano dal partito, se no da dove venivano? Io questo non lo so, voglio dire, non faccio mica il tesoriere di mestiere. No, voglio capire una cosa, il signor è Beautiful Place, il signor Belsito, per dire all'inglese che poi suona meglio, è Beautiful Place, sì. Non è meglio, più americano, è sì, Beautiful sì. Place. Allora? Le ha mai dato, no, non le ha mai dato una lira, niente. No, personalmente no. Personalmente no, cosa vuol dire? Vuol dire che non me la badati, punto. Ma allora perché lui e altre persone, quindi? Né lui né altre persone, questa è che dobbiamo dire. Ma lei ha denunciato quelli che sostengono questa cosa? Io no, ma io con molta onestà ve lo dico, cioè se questo, sì? Questo è un siccome non ne parlo, non ho mai parlato e non intendo farlo, lascio veramente che facciano il proprio mestiere, chi di dovere, ritengo di non parlare nemmeno con voi, ma perché... No, ma Richard, scusami, Richard... Perché lo chiami Richard? Richard è perché ha parlato in inglese prima, adesso vuole... Appunto, Richard, I won't tell you this, ti voglio dire questo, Richard, se uno dicesse a me che ho preso dei soldi da signor Cruciani e non è vero... Beh, io subito denunzio chiunque. Lui dice, non è detto che non lo sia stato fatto, voglio dire, non è detto che non ci siano delle repliche, perché voglio dire, proprio se non ne parlo, non ne parlo, perché lascio a chi deve fare questo mestiere che lo faccia che alla maniera denuncia? Vabbè, vuol comunque dire che ho fatto quello che ho fatto nell'iterim della legge italiana e quello che verrà fatto sarà fatto, voglio dire, tutto qua in maniera senta, molto Bossi, ma c'è stato un complotto contro la Lega, secondo lei, con questa storia dei fondi del partito, eccetera, eccetera? Suo padre l'ha detto più volte, cioè c'è stato un bel attacco, va. Lei non parla di complotto, eh? No, io guardi, io dico solamente è stato un bel attacco, ma questo è chiaro a tutti, che poi sia giusto o sbagliato lo vedranno, lo diranno le carte. Certo. Senta, lei alla fine, non ho capito se la laurea l'ha finita o no, quel famoso corso di laurea? No, mai. E come mai? Perché non ho ancora avuto il tempo tecnico, lo farò quando lo farò. A che anno è lei a questa università dell'Insubria? Famosa università dell'Insubria. Subria. Scusi, ripeto la domanda, la sento male, non ho capito. A che anno è all'università dell'Insubria? Al secondo. Sì. Quanti esami? Un po'. Adesso non ho qui, ma... Beh, siamo in ritardo. Sì, assolutamente sì. Secondo anno quanti esami ha fatto? No, vabbè, ma mica di come si dice? Fuori corso, secondo... Assolutamente, sì, certo. Fuori corso, pochi esami. No, va bene, ma non è un problema questo. No, per carità, ma si vuole laureare alla fine, sì? Sì, con calma. Con calma? Qui hanno aumentato le rate pure, ha visto che hanno aumentato le rate per i fuori corso, un casino qua. Lo so, sì. Cosa costa un sacco di soldi. Lavoreremo di più. Costa un sacco di soldi l'università. Costa un sacco di soldi, vabbè, cose da parte. Senta, sa Salvini cosa ha detto da noi l'altro giorno? Che suo padre, con queste espressioni, l'Italia è un paese di merda, è troppo volgare, la gente si è stufata di queste volgarità. Ma può anche essere, magari dipende sempre come l'ha detto, però tutto sommato la volgarità non è mai una cosa... Senta, ma la volgarità non è mai una cosa? Piacevole. Ah no, certo. Ma secondo lei ci sono i gay nella Lega? Questa è una cosa interessante. Io non l'ho mai conosciuti, se ci sono qual è il problema, insomma. Esiste anche un'associazione che si chiama Los Padanos, i mitici Los Padanos, che rivendicano un 15%, dicono la Lega ci sono il 15% di omosessuali. Qualcuno ci sarà pure nella Lega, no? Allora dov'è il problema, insomma? No, ma per carità. Non penso sia un problema. No. Siamo in una società multietnica aperta, quindi. Adesso l'etnia non c'entra col coso, col sesso. Voglio dire, in generale può anche c'entrare. No, non è che sono un'etnia a parte gli omosessuali, eh? No, ho detto un'altra cosa io, molto diversa. Quindi ho detto, siamo in una società aperta, multietnica, e quindi c'è di tutto il mondo, non vedo dove siamo. C'è di tutto, però a lei non piacciono i froci, diciamo la verità, io la dico così. Non le piacciono. Ma io molto preferisco le donne, ho sempre preferito le donne, quindi vado avanti preferendo le donne. Quello anch'io, che c'è? Ma se vede due uomini per strada che si baciano? Guardano un'altra parte, le fanno un po' schifo, eh? C'è di meglio da guardare, magari. Sì. Le fanno un po' schifo, mi dica la verità. Magari a loro fa schifo vedere un uomo e una donna che si baciano, non lo so. Può essere. A presto! Arrivederci, state come bene, sta? Buona serata. Eccoci qui la Zanzara, questa sera fino alle 20:30 per tutta la settimana, poi torniamo. Torniamo? Parenzo? Non lo so se torniamo, qualcuno ci vuole tappare la bocca, ma noi resisteremo. Katia? Sì, no, dove andate? Rimanete, per carità, ma che state scherzando? Beh, ma noi rimaniamo sempre da qualche parte. Ma no, per carità, ma che qui si crolla, qui crolla tutto. Beh, allora se uno non sente voi qua si crolla. Almeno ma ha sentito Riccardo Bossi? Katia, Riccardo Mamma Bossi. Mamma mia, guardi. Mi dica la sua. Posso chiedervi una cosa? Sì. Quanta pazienza avete accanto a voi, sia lei che parente? E abbiamo la signora Pazienza qua accanto, molto grossa, diciamo. È molto grossa. È molto pesante, sì, è molto pesante, sì. Mamma mia, oddio. Katia, resti lì. Ho capito, che dico che c'è bisogno di leggere. C'è bisogno di studiare, sì. Quella ha detto che si sta laureando. Eh. Si vuole laureare con grande ritardo. Si vuole. Con molta calma, certo, che gliene importa a lui. Giorgio dalla provincia di Treviso. Katia è fenomenale. Giorgio, padre, dica. Buonasera, Parenzo, buonasera, signor Cruciani. Dica. A chi è? È uno dalla provincia di Treviso, Giorgio. Sì, ma deve abbassare il livello alcolico. Io sono in Italia da 22 anni, io sono rumeno, no? Sì. Meno male. Si sente subito allora, che è rumeno. Allora, volevo dirgli due paroline. Ma chi era il Trota al telefono prima? No, il fratello del Trota. Ah, non era il Trota? No, il fratello del Trota. Ma no. Speriamo che sto qua almeno vada a scuola, porco. Ma... Beh, no. Oh, calmi. Calmi. Ho già tanti problemi qui, almeno che non vada in Albania, perché ha criticato tanto gli extracomunitari, dopo che non faccia anche lui come suo fratello. Hanno tentato di beccare la laurea in Albania, signor Trota, sì, è vero, Giorgio. Ma prima li hanno criticati, però, Sì. Io vi stimo, ragazzi, tantissimo. Io sono rumeno che risiedo in Italia, sto bel paese, però quando che vedo gli italiani come il Trota, come tanti altri, mi danno fastidio. Sì, vabbè. Bravo, ha ragione. Vabbè. Sa quante cose... L'italiano medio, cosa fa? Che fa? Critica tantissimo l'altro italiano che vive in Italia, che paga le tasse, sì, che suda col sudore, lavora... Sì. E paga tutto, e gli altri che fanno le come posso dire, perché adesso non ho neanche le parole, cioè che non pagano le tasse in Italia, che non pagano niente, e dopo vogliono anche avere la faccia bella, non è che mi sono tanto simpatici a me. Ma questa è l'Italia migliore, bisogna dare voce a queste storie. Questa sì, l'Italia adesso fra poco un altro grandissimo ospite, poi ti dirò chi è un altro grandissimo ospite, fra poco un altro grande ospite, Parenzo. Fai l'elenco, lo devi indovinare stavolta. Bianca. Ma immagino. Aspetta, dopo... fra poco, sì. Bianca da Milano. Allora, Bianca da Guercia, bene. Pronto? Dica. Allora, innanzitutto sono un'ascoltatrice fedele e mi piace tutta la trasmissione perché... Sì. Allora, la voce del dottor Cruciani non mi eccita, questo lo dico al signor Parenzo, sì. Solo mi informa, uno. Secondo, signor Parenzo, faccia piacere, quando parla, soprattutto con le signore, i doppi sensi, se li tenga per sua moglie o per lei, chi frequenta lei, perché il fatto, che ho sentito prima con quella signora che ma guardi parlava, che la signora non si è offesa, ma se non si è offesa la signora, perché si offende lei? Come? Scusi, perché se la signora in questione, che tra l'altro è collegata con noi, non si è offesa, si offende lei? Non lo so, si vede che allora... lei non ha captato. Ma no, ha capito benissimo. Non mica è stupida la signora Katia. Katia, ha capito lei? No, questa signora non è che non capisce. Io oggi non parlo più di moda ai medici, i psicologi, i psicoterapeuti. Ha capito, voleva signora Bianca? Voleva difendere lei, ecco. come signora. Ma non... È un cavaliere, è stato un cavaliere. Lei non ha capito niente della vita, secondo me. Io ho capito molto tardi, purtroppo. Bravo. Forse perché ho fatto molta gavetta. Ha capito, signora Bianca? La gavetta, sì? Capisce qualcosa. Ha capito, signora Bianca? No, non ho capito bene. No, scusi, signora Bianca. Io che sono sorda capisco. Non c'è bisogno di difenderla, perché la signora si difende benissimo da sola. Non è rimasta per nulla offesa da quello che ha detto Parenzo. Mamma mia, ma quale offesa? Mi scivola tutto. Proprio Bianca. Come la dire che è intervenuto, ancora un cavaliere che difende le signore. Ma chi? Quel signore che poi la signora, credo Katia, non so, gli ha detto che non capiva niente, doveva leggere, e l'ha anche insultato, ma non si fa così. Alla fine quell'uomo lì era indignato per i doppi sensi detti a una signora, io l'ho vista così. Poi comunque, sì. Io parlo per me. Sì, certo. Ripeto, mi piace tutto quello che dite, quello che fate, nel senso che per me è un'informazione, non ho tempo e non ho la possibilità di seguire durante la giornata gli eventi, quindi io aspetto la vostra trasmissione perché mi piace molto e per me è anche istruttiva, per me, punto. Però che c'è il signor Parenzo, sì, che o che ci dà a noi ascoltatori, o che siamo ciucche all'ora dell'aperitivo, o che abbiamo bisogno dell'ambulanza, e lui dice delle oscenità, a volte dice delle fesserie tali che proprio fa cadere. In più ha una voce sgradevole, non è per niente radiofonica. Allora si dia una regolata, perché una trasmissione così bella è peccato avere un punto così scadente. Va bene, grazie, grazie. È vero, è vero. Andiamo a Torino, Elia, buonasera. No, allora, buonasera, mister Cruciani. Sì. Aspetta, voglio essere telegrafico. Dunque, innanzitutto per quanto riguarda la storia del Giusva Fioravanti, volevo dire che the show must go on, per cui voi fate show, per cui è giusto che facciate il meglio, il massimo, affinché lo show vada avanti. Ma è per questo che ho chiamato. Semplicemente volevo dire che penso che il dottor Scarpinato sia un servitore dello Stato. Ma che c'entra Scarpinato adesso, scusi? Cioè, voglio dire, cavoli, è una settimana che vorrei esprimere questo pensiero. C'ho l'orecchio che è diventato bollente, è un'ora e mezza che aspetto, vorrei 30 secondi se lei mi dica. No, ma sì, ma ho capito, che c'entra Scarpinato? Come cosa c'entra? Allora, ok, allora mi faccia terminare. Io chiaramente mi riferivo a quello che lui ha detto ricordando la figura di Paolo Borsellino. Di conseguenza penso che il nostro presidente Napolitano dovrebbe smettere di occultarci le cose come stanno. Ma occultarci che? Sentimi un attimo, cioè, non ho capito, ma secondo lei il signor Mancino ha chiamato al signor D'Ambroso per chiedergli se la spigola cucinava all'acqua pazza o al sale? Insomma. No, quello sicuramente no, guarda, quello sicuramente. Evidentemente ci sta qualcosa sotto. Insomma, ma perché qualcosa sotto? Ha chiamato D'Ambrosio perché intimorito dalle indagini della Procura di Palermo, punto. Perfetto. E allora, ma non è che allora necessariamente per occultare qualcosa o per tramare ai danni della Procura di Palermo, per tentare di tappare la bocca ai magistrati. Queste sono illazioni. Mister Cruciani, lei ci sta oppure c'è? Lei sa perfettamente quello che io voglio dire. Ma no, ma penso di interpretare il pensiero della maggior parte degli italiani che hanno almeno un mezzo cervello per pensare. Liberi. Caro Parenzo, un grande ospite, non c'entra con questa canzone, un grande ospite. Secondo te chi ho chiamato alle 20:18? Guarda, le ipotesi possono essere due, visto come è andata la trasmissione e il basso livello culturale. No, no, ma dimmi, secondo te... Potrebbe aver scherzato con un grande semiologo italiano. Cioè? Oppure con ma non so, appunto, dicevo Umberto Eco. No, oppure... non c'è Umberto Eco. Ah, no, ho capito, il grandissimo filosofo Umberto Curi, che è molto bravo. Ma chi è? Padova, ma chi è Umberto Curi? Ma ti pare Umberto Curi, grande, se lo scrive anche sul... Oppure no, Giorello. Ah, bravo, hai invitato Giulio Giorello. No, bravissimo. No, non è Giorello. Bravissimo. Non è Giorello. No. Professor Giorello, scusi. Non è in Giorello. In questo momento di decadenza dei costumi. Fai fare la domanda a Giorello, scusa. Ma non c'è Giorello. Giulio Giorello? No, non c'è. Ah, Bernardo Rilevi, diamo un respiro internazionale. Bravissimo, bravo. Ma no, non bravo. È lui, non l'ho, non l'ho invitato. Bernard, ma non è lui, non no. È lui. Ah, Glucksmann allora, grande, Glucksmann è bravissimo, bravo. André Glucksmann, no, non è lui, non è lui, non c'è. Ultimo tentativo, dai. Non riesco a capire chi può essere. Ultimo allora. Tentativo. Ma non so, sentendo la voce, la musichetta di Forza Italia mi viene un terrore, francamente mi viene come il sangue, mi si ghiaccia il sangue, francamente, però... Ah no, vabbè. Antonio Martino. Vabbè, no, non c'è Antonio Martino. No, non no, c'è Antonio uno Martino. Statista sicuro, Antonio Martino non c'è. Diego Volpe Pasini, buonasera. Eccomi qua, pronto. Parenzo. Parenzo, sei contento? Parenzo. No, mi manca proprio la voce. Comunque, Parenzo, sei felice? Ci sono. Beh, certo, c'erano quattro persone alla tua manifestazione con quattro bandiere spelacchiate e ti hanno pure spodestato dopo cinque. Appena hai messo una bandiera in piazza, mi hai detto non puoi neanche utilizzare il simbolo. Se ti piace detto. Così, caro Diego, ne fai un po' la volpe. Chi ha detto queste cose? Poi meglio quattro che nessuno, prima di tutto. Beh, quattro, dei quattro, tre erano giornalisti e uno era uno che passava lì che andava alla Rinascente. Fantastico, quindi. È sempre un inizio, caro mio, è sempre un inizio. E beh, certo, uno andava alla Rinascente, gli altri tre erano giornalisti e passavano davanti e dice, ah, lei di Forza Italia, no, sta andando alla Rinascente qui a comprare le mutande. caro mio. Ma dimmi la verità, Parenzo, è stato un flop allora questa cosa di Volpe Pasini? Adesso, è una domanda, adesso mi meraviglia anche della domanda. Sognando Forza Italia, è stato un flop. Ma avete visto le foto? Ma di che parliamo? Ma hai visto le foto o no? Allora sì. C'erano sette giapponesi che erano stati lasciati per caso, per giunta, lì da un pullman a San Babila, e, stavo, e dovevano andare a piedi perché era pedonale, sette giapponesi. Quelli che stanno lì, dei negozi che sono vicino, dallo spavento di aver visto quel misero gazebo, non sono neanche usciti, che già riescono a fumarsi una sigaretta, sono rimasti dentro il locale. Poi c'erano appunto quattro persone, tre giornalisti e un passante, che è stato intercettato, gli hanno detto, sì, lei è qui per la manifestazione? No, io sto andando a Larina, come dicono a Milano. Chi è Larina? Scusi, la via Rina? No, Larina scende. Questa è la manifestazione. Dopodiché parliamone pure, poi, sono le 8:15. Poi è arrivato, 30, poi è arrivato anche il comunicato di Palazzo Grazioli. Appunto. Come è arrivato prima. Quello è arrivato prima. Palazzo Grazioli ha detto non si può usare il simbolo di Forza Italia, cioè no, lei ha fatto una manifestazione abusiva. Ha detto l'abbiamo già diffidato, cosa che non è vera, perché non è mai arrivata nessuna diffida. Ma chi sono oggi i nemici di Diego Volpe Pasini, allora? Chi sono i nemici? I miei nemici sono tutti quelli che non vogliono rivedere Forza Italia. Sì. I miei nemici sono tutta la sinistra, ovviamente. Vabbè, quello. E i miei nemici forse la sinistra se ne fotte. All'interno del PDL, i capi del PDL, che hanno paura di vedere spodestato dopo 20 anni, sì, il loro ruolo egemone e il loro ruolo dentro la politica. Però italiana. Scusi, perché dovrebbero avere paura di Diego Volpe Pasini? Questo bisognerebbe chiederlo a loro. Evidentemente sono debolissimi, hanno una coda di paglia lunga chilometri, sì, e sono assolutamente consapevoli di essere lontanissimi dalla realtà del paese. Ma è vero che costruiscono dossier contro di lei, Volpe Pasini, per tenerla lontana da Berlusconi? Lo fanno da sempre. Ma è vero che ne hanno costruito uno per tenerla lontana da Berlusconi? Lo fanno da sempre, certo. Cioè hanno costruito un dossier contro di lei? Ma sì, ma io ne ho parlato anche col presidente, che problema c'è? E che ha detto Berlusconi? Ha detto che sono cose che accadono, di non preoccuparmi, di andare avanti sulla mia strada e di continuare a comportarmi in maniera corretta. Dunque lui appoggia tutte queste due iniziative? No, non ho detto che appoggia le mie iniziative, ho detto soltanto che mi ha detto di non, quando abbiamo parlato di questa cosa dei dossier contro di me, di non curarmi delle male lingue, di comportarmi. Ma che dossier sono questi qua? Che c'è in questi dossier? Ma cosa vuoi che ci sia? C'è la storia di una persona che ha fatto un sacco di cose buone, qualche errore, e sempre offrendosi in prima persona. Ma l'errore, per esempio, un errore, questi qua avranno puntato sugli errori, no? Che errori hai commesso? Ma che ne so, l'errore è stato quello di andare da un avvocato di mia moglie, dire impari a vestirsi e non preoccupi come mi vesto io, quando eravamo in tribunale per quantificare se i Rolex delle vacanze a Cortina e in Grecia sono alimenti o non sono alimenti. L'errore è stato quello di fare, che ne so, di occuparmi troppo di cose che secondo altri non vorrei occuparmi. Le cose. Ma qualcuno parla addirittura di qualche episodio di rissa o cose di questo tipo, no? Rissa? No, in questi dossier, in questi dossier. Rissa. No, cose di questo tipo. No, rissa volentieri, se c'è da fare una rissa la faccio volentieri. Non l'ho mai fatta, nel senso che non ci sono mai state risse focose, ma se c'è da fare una rissa la faccio volentieri. Comunque pare che Mazzoli abbia venduto... Rispetto, però, aspetta un attimo, no, perché prima dicevamo di Riccardo Bossi e qualcuno mi ha scritto, pare che Mazzoli, che è il conduttore dello Zoo di 105, abbia venduto una macchina a Riccardo Bossi e si lamentasse per il non pagamento, non lo sapevo. Vabbè. Comunque lo comunichiamo. Volpe Pasini, scusi, ha visto che si è dimesso Lombardo? Fantastico, questo dimostra che Lombardo è una persona di rispetto e ha mantenuto l'impegno che ha assunto. E poi c'è finalmente la grandissima opzione delle elezioni regionali siciliane, che anche se non ci dovesse essere l'anticipazione di quelle nazionali... Ma che vuoi candidarti per caso, no? No, io non sono siciliano, in Sicilia si devono candidare i siciliani. E nel PDL chi ci potrebbe essere? Ma nel PDL ci sono tanti che cercano di candidarsi, in Sicilia so... I nostri amici che si muovono sanno che c'è tanta gente che si sta muovendo. Ma secondo te chi sarebbe la persona migliore? Ma se uno chiede, secondo me la persona migliore è Angelino Alfano. Addirittura? Perché, il tuo nemico Alfano? Sì, perché... quello che hai detto che si è messo a piangere davanti a Berlusconi, quello che ti vuole morto, quello, ti vuole morto Alfano. Che si è messo a piangere l'hai detto tu. Ma che l'ho detto io? L'hai detto tu. Che mi vuole morto va benissimo, non è un mio problema. Ma però è bello che ti vuole morto. Ma non so, chiediglielo a lui, non mi interessa, so che paura, non ho mica paura. Il problema è, il punto è invece, parlando di cose serie, che Alfano, che ha caratteristiche di visibilità nazionale, di qualità, diciamo così, riconosciute da tutti, sì. Molto riconosciute anche dal presidente Berlusconi, è siciliano, ha fatto tutta la sua prima carriera politica in Sicilia ed è... diciamo così, non ha nemici interni, perché amici che Saverio Romano, Schifani, tutto questo mondo di centrodestra che è un po' l'uno contro l'altro, su Alfano non avrebbe nulla da dire. Cioè potrebbe unire un sacco di gente. Ma secondo me unirebbe un sacco di gente. Ma Berlusconi è d'accordo con questa cosa? Cioè pensa che Alfano potrebbe essere un buon candidato per la Sicilia dove si vota il 28 ottobre? Questo, guarda, io penso che Berlusconi stima molto Alfano. E certamente, siccome un giorno mi ha detto di Alfano una cosa che lo ha colpito, cioè che è quello che alla fine di ogni ragionamento a un tavolo molto complicato tirava fuori la sintesi che metteva d'accordo tutti. Cioè il suo intervento finale era quello che in un modo o nell'altro metteva d'accordo ma, tutti. Ma si è detto che non ha il quid. Ma questo cosa c'è? Questo è perché parliamo del nazionale, che è un'altra cosa. Parliamo del suo mondo in Sicilia, dove sicuramente il quid ce l'ha. E se una persona che ha questa caratteristica di riuscire a mettere insieme e d'accordo su un progetto persone diverse fra di loro, visto che in Sicilia c'è una frammentazione così forte, e vincere in Sicilia... Ho capito, sarebbe importante. Vuol dire... Ma io dire... dico, Berlusconi lo sa o no? Cioè, Berlusconi lo vuole candidare in Sicilia o no? Tu che sei intimo, lo puoi dire? Posso dirti mica io. Adesso poi mi vedete mettere in bocca qualche cosa che poi mi smentisce per dirmi non deve dire quello che penso io o quello che dico io. Berlusconi sarebbe favorevole a questa ipotesi, sì o no? Secondo me no, non dovrebbe essere contrario. No, no, dimmela esplicita la cosa. Ne ha parlato qualche volta? Ma no, si è rimesso oggi. No, ho capito, oggi, di una possibile candidatura, di una possibile candidatura. Ne ha parlato, su. Non lo so. Beh, non lo sai, non lo sai. Non sarebbe contrario comunque, no? Secondo me ci sarebbe una gran parte. No, ma Berlusconi sarebbe a favore o no? Se il centrodestra sarebbe a favore, ci sarà anche Berlusconi, no? Vabbè, comunque Berlusconi è favorevole. Parenzo, abbiamo bruciato Alfano? Abbiamo bruciato la pizza, la quale Alfano, che cazzo, stiamo parlando di cose totalmente inesistenti, giusto per spiegare ai radioascoltatori, era molto più vera la pipì della signora, che no, adesso io voglio dire una cosa, io ho parlato con, voglio candidare Umberto Eco alla regione Lombardia, col mio movimento, che è una zanzara. Ma però la candidatura di Alfano... Ha lo stesso valore, posso dirti, mi sono rotto i coglioni, ha lo stesso valore, io adesso candido Umberto Eco alla regione Lombardia, mi sono rotto le scatole volte così, basta. Candido Umberto Eco. Sì, io credo che vedi, signora Katia, aspetta. Candido Umberto Eco. Sì, mi dica. E la lista si chiama Nel nome della rosa. Lei lo vedrebbe bene. Non è la rosa tua. Non è la rosaccia tua che non esisteva. Lo vedrebbe bene. Aspetta, state zitti. Sei un copione, Parenzo, incapace di avere idee proprie. Nel nome della rosa. Signora Katia, lei lo vedrebbe bene Alfano, governatore della Sicilia? Mamma mia, per carità, eliminate tutti, gente nuova, giovani, sprint, basta con questi, basta. Ma Alfano, non ne può più. Alfano è giovane, signora Katia, Alfano ma è giovane. Ma giovane, ma quello è un calcio nel sedere, bisogna dargli, ma quale giovane, è giovane? Ci sentiamo domani. Ancora? Come no? Ma lei ormai è fissa, comunque, no, guardi, Parenzo non mi ha invitato per che la c'è? Cena. Pasini, che c'è? Mi sono sbagliata. Io ritengo che Alfano sia il miglior candidato per le regionali. Sì, mamma mia, a domani. 40 anni è un uomo perfetto. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. È ancora a casa, Emo. Si sente.